Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati a questo nostro nuovo episodio, molto ravvicinato rispetto all'episodio 5 che abbiamo recentemente pubblicato, ma questo è un episodio totalmente diverso, un episodio particolare, un episodio senza scaletta, proprio alla via così. A cazzo, sì. Però noi iniziamo subito in questa maniera così becera. Vabbè, tanto ce l'hai il target esplicito, assolutamente sì. Allora, questa puntata si chiamerà Dietrologia Natalizia, così. Che bel titolo di merda. Infatti, in questa puntata che cosa faremo? Innanzitutto la peculiarità di questa puntata è che siamo in tanti, però per risparmiare in banda ci siamo tutti rifugiati a casa di Saso e gli altri due sono ovviamente via Skype, che per problemi tecnici useremo un sistema artigianale, ossia le casse del computer per registrare le loro voci. Insomma, intanto salutiamo quindi quelli che stanno fuori e iniziamo dall'assente che ultimamente insomma ci ha fatto un po' penare. Ma dov'è non è, l'abbiamo trovato, l'abbiamo perso. Luigi Marrone, ciao Luigi. Ciao a tutti, mea culpa, faccio mea culpa su tutto. Bravo, bravo, è sempre importante essere cristologici nella vita. Dall'altra parte ci ha informato che sta a meno 12 gradi sotto zero dalla fantastica Svizzera, senza riscaldamento, anche Stefano Biggio. Ciao a tutti, amici del Proibito. Proibito soprattutto. E invece qui da questa parte a Roma, nella città più bella del mondo, al caldo, dentro la casetta di Giuseppe che c'ha i riscaldamenti che ci stanno rinfrescando. Ci stanno ristorando, c'è Giuseppe Saso ovviamente. Buon salve a tutti. Che ovviamente in macchina siamo arrivati fino a qua, non poteva che non esserci Marco Gualdi il distruggitore, perché se no la macchina da sola non si guida, non si per forza venire. Io non guido e lui deve guidare per forza. Ciao Marco. Ciao a tutti maledetti, ciao. E poi fa la sua comparsa non soltanto come redattore ma addirittura come voce in Dietrologia Videoludica, lo ringraziamo, gli vogliamo bene, oramai l'abbiamo praticamente fagocitato. Simone cognome Andreozzi, ciao. Ciao a tutti, buonasera. Che oramai fa con noi anche delle filmanie, fa tutto. Cioè. Sì, io faccio con Stefano delle cose tipo ieri sera. Sì, sì, stavo per dire, voglio salutare Simone cognome perché da molto che non lo sento. Sono 24 ore, quasi 24 ore insieme. Penso meno di 24. L'importante è che avete consegnato il messaggio a Bruno, ossia che praticamente Billa Dama è un silone. Questa è una cosa sono cose importantissime. Allora, in questa puntata un po' sdragged, che facciamo? Prima di tutto, giusto per fare anche un po' di pubblicità al nostro blog, dove Saso, Simone e tutti quanti un po' scriviamo. Facciamo così, accenniamo insomma gli articoli che sono stati pubblicati recentemente, in modo che magari si possa fare qualche piccolo commento se qualcuno di noi poi li ha letti. Io non ho letto manco uno, neanche quelli che ho scritto io, quindi posso tranquillamente dire, però qualcuno di voi sicuramente... Cioè, non solo c'è chi guida ma anche chi scrive. Quindi, quindi andiamo sul sito di Dietrologia Videoludica. Intanto, non so se Stefano, tu almeno i tuoi te li sei letti? Io sì, gli ho dato un'occhiata. Ma li hai capiti? No, non li ho capiti. Io so solo scrivere, ma non so leggere. Non sai capire? Che è? Quello è il problema. Che... è finito la una cosa fantastica. Tu, Luigi, se ti è capitato, insomma, avrai letto qualche no? Devo essere sincero, ragazzi, sono stato lontanissimo dal PC ultimamente. Beh. Perché voglio esserci nemmeno oggi. Ma se volete, mentre parlate, li leggo adesso. Ok, come si scende? Non mi fa fare così. Vai, scendi giù tutto in fondo. Scusate, stiamo usando delle tecnologie a me assolutamente ignote. Quindi, no, trackpad. Vabbè, allora, iniziamo da Marco Gualdi, che Marco Gualdi ha scritto, insomma, recentemente. Noi, allora, abbiamo un team che è composto da 5-6 persone. Marco, quanti sono? Tu che sei responsabile del sito. Quante persone? Contare soltanto fino a 5. Fino a 5. Siamo di più, non lo so. Quindi quanti siamo? Siamo 5. Giuseppe, che insomma, Giuseppe. È una firma non da poco. Contiamo. Giuseppe. Io, che vabbè. Marco Gualdi, che insomma, io e Marco. Siamo due grattatele. Simone, che praticamente non fa altro che copiare articoli che ha già scritto. No, speriamo abbia già scritto lui. Arriveranno anche lui. Okay. E c'è Stefano Biggio che talmente che non gli va di scrivere che addirittura li registra gli articoli. Però vi ho portato dentro uno che ne sa. Però hai portato dentro un nuovo ragazzo. Okay. E poi c'è Luigi Marrone che in realtà però non partecipa. Che vabbè, purtroppo non c'ha il tempo, ma insomma, Luigi, noi. Per io ovviamente sono arrivato fino a 5, poi mi sono perso. Poi, dopo aver commentato questi articoli, sceglieremo un gioco, commenteremo un gioco, parleremo del gioco che giocheremo ovviamente a Natale. Allora, Marco, c'è il tuo primo articolo. Allora, il primo articolo mi è venuto in mente giocando Dishonored. Non so se conoscete quella simpatica avventura che è uscita un paio di mesi fa. Dillo magari più limpidamente. Dishonored. Per dire la nordica, che praticamente ha come protagonista questo personaggio che è Corvattano, che praticamente è un tizio che in tutto il gioco non parla, cioè praticamente gli succede di tutto ma non dice una parola. Poi ho scoperto che nel gioco in realtà c'è qualche stringa, ma proprio molto scriptata di testo che bisogna per forza dire per far andare avanti il gioco. Ma in realtà bisogna spingere poi perché non si sì, devi spingere il pulsante e basta. Non è che c'hai di. Vabbè, qua su Fallout 3 in pratica, no? Cioè, nel senso, quei personaggi completamente spersonalizzati. No, molto di più. Addirittura. Basta. Beh, ma Bethesda pure di sonore è Bethesda. No. Scusate, quanto tempo è passato all'inizio? Ho pensato più di 2 minuti. Penso di no. Allora, ci bisogna ricordare. Esatto, bravo. Bisogna citare Mass Effect, se no, il nostro gettoncino non lo prendiamo. E io che aspettavo il gioco dell'anno. Ah, sapete che Mass Effect 4 uscirà tra il 2014 e il 2015? Sì, notizia di oggi. Ok, che abbiamo preso il nostro gettone da BioWare anche oggi. Se no, non possiamo registrare. Comunque, torniamo, insomma, cerca di essere un po' più stringato. Questo cosa è il fatto che. Ci sono anche l'altri. Che prende questo personaggio non dice una cippa. E quindi ho fatto una piccola riflessione sul fatto come nel mondo del videoludico ci siano tanti personaggi che siano muti. E io ho considerato che sia più un retaggio di vecchie abitudini di quando non c'era la tecnica, la tecnologia, non c'erano le possibilità, non c'erano i soldi per fare magari dei doppiaggi, ma anche per metterci due righe di dialogo, non necessariamente doppiato, ma almeno scritto. E ho fatto delle riflessioni. È più una questione di pigrizia dei programmatori il fatto di non mettere le voci nei protagonisti, o serve davvero a dare un po' più di personalità, di carisma ai protagonisti? Ho fatto anche degli esempi. Voi che ne pensate? Luigi. Sto leggendo un attimo gli articoli. Tu ti stai riferendo in particolare al fatto se i protagonisti sono dotati di voce o meno? Esatto. Sì, generalmente. Cioè, una risposta, una considerazione generale. No, perché sono o non sono dotati? Cioè, e soprattutto che cosa c'è? Perché sì. Oggi, nel 2012, quasi 2013, ancora dobbiamo subirci dei protagonisti senza voce? Ovviamente, cioè, diverse sfaccettature, la scelta di un team di produzione per far includere o meno la caratterizzazione del personaggio nella propria produzione. La prima cosa che mi viene in mente è che dipende dal rapporto che vuoi far avere il giocatore col personaggio stesso. Quindi, cioè, se, da come la intendi tu, mi sembra che tu stia dicendo è strano che non abbiano la voce alcuni personaggi oggi nei videogiochi. Tipo, ad esempio, lo stesso Dishonored, ma fino ad arrivare ai casi, diciamo, più estremi, tipo Morgan Freeman che non parla, che è strano perché ovviamente l'ultimo Half-Life che Gordon uscirà Freeman dovrebbe essere caratterizzato, secondo me, Gordon Freeman. Morgan Freeman che non parla, poverino, insomma, c'è una certa età, però no, diciamo Morgan Freeman io lo conosco, mi sembra che parli anche senza personalità, il fatto che non parla, che ci si mette il proprio nome, poverino. E quindi dipende sempre, secondo me, da come vogliono fare intendere che rapporto vogliono far avere il giocatore e l'utente, il videogiocatore, scusate, con il personaggio stesso. Se non lo dotano di voce è perché siamo noi che dobbiamo immaginarci una risposta emotiva a quello che è l'interazione col personaggio e con l'ambiente e con gli altri personaggi non giocanti. Risposta emotiva ovviamente del videogiocatore, quindi ci deve mettere del suo. Quindi è un tramite che poi è stato esemplificato in maniera, scusate il gioco di termine, esemplare da Link, di Zelda, cioè Link, come dire, collegamento, cioè collegamento fra il giocatore e il mondo di Hyrule, il mondo di gioco. Che poi... Se invece diamo voce ai personaggi, la caratterizzazione a monte del team di sviluppo è voluta e quindi deve avere una sua caratterizzazione forte che tiene distante l'utente, il giocatore dal personaggio stesso. E come decidere di ambientare? Che ambientare? Decidere se il giocatore deve, il gioco deve essere sviluppato in prima persona o in terza persona, cambia radicalmente la considerazione o la distanza o la vicinanza che abbiamo col personaggio stesso. Quindi non penso che sia da effettuare una considerazione del tipo è strano che oggi alcuni personaggi non parlino, cioè sembra una cosa antiquata. Eppure, secondo me, invece, una scelta precisa di game design. Ma secondo te, Luigi, ti impersonizza, cioè ti dà più personificazione? Si personizza, è fantastico. Personazzato, disegnato. Ti senti più dentro il personaggio? Ecco, forse è muto. La storia gioia ieri, no? Se è muto oppure se parla, cioè se tu vedi comunque un personaggio che comunque ha dei, ovviamente non che dice cazzate, però che siano comunque accompagnati da testi, da doppiaggi fatti bene, quindi cinematografici di un certo livello, ti sembra il personaggio più tuo, più aderente se parla o se è muto? Ma dipende dalla più credibile, storia, più che altro. Come caratterizzato, vedete Metal Gear ad esempio. Metal Gear è uno sproloquio di dialoghi, eppure noi ci sentiamo vicini a Solid Snake moltissimo, per quanto dovremmo creare una distanza fra noi giocatori, che Snake è fortemente caratterizzato, ha la sua storia, un suo dramma e la sua realtà con cui interagisce, eppure ci sentiamo molto vicini. Perché? Perché c'è una scrittura sotto che è favolosa, che Hideo Kojima non si può amare odiare, però che non sappia scrivere i dialoghi, non sappia scrivere le storie è una buffonata, è uno che ci sa fare. Quindi non puoi dire, secondo me, non si può dire, secondo me, come preferisci sentirti. Ecco, forse magari è con quale storia preferisco immergermi affinché poi ci sia questo personaggio meno con cui posso immedesimarmi. Quindi a volte preferisco le storie. C'è una cosa particolare però in Link, che effettivamente non parla, però lui fa i versi, diciamo, quando, diciamo, dà la spadata oppure fa la capriola. Sì. Che è una cosa forse pure ancora più particolare. Alla pure Mario. Però Link quando parla comunque non parla, nel senso c'è delle cose di testo che lui dice e neanche vengono scritte, se non no, non c'è scritto. Cioè c'è stata la risposta. Viene sempre appunto attraverso gli altri. Esatto. Viene caratterizzato. È un punto di vista ancora diverso quello. Sì, quello è una caratteristica. Beh, quello però è anche un modo di riprendere per certi versi, non abbandonare la tradizione del l'epoca nel quale è stato costruito quel tipo di gioco di ruolo, no? Che comunque era quasi tutto testuale, anche lì si limitava molto il testo, no? Perché come i primi Final Fantasy, che alla fine se tu vai a vedere non è che c'ha i dialoghi o la struttura dei dialoghi come... Però come... Final Fantasy chi parlava, visto che non c'è un personaggio, non c'è un protagonista, c'era scritto chi parlava, perché comunque era interazioni tra più personaggi, mentre Link viene sempre accolto, diciamo, sì, è una sua peculiarità a livello narrativo di Zelda, insomma, questa cosa qui. Tu Peppe? Ma io sono d'accordo fondamentalmente come sempre con Luigi, nel senso ha senso avere un personaggio muto a seconda dei giochi. Per esempio, non per voler sempre citare gli ultimi, ma è una cosa che comunque può aiutare nell'immedesimazione quando magari la storia comunque presenta o non ha, diciamo, fondamentalmente viene raccontata attraverso il gameplay, quindi c'è molta meno sequenze cinematiche, motion video. Ha un senso, e secondo me è una scelta di game design vincente. Per citarti un altro gioco che per esempio ho giocato quest'anno, che propone come sempre un protagonista che non parla mai nonostante interagisca con gli altri, per esempio la stessa cosa anzi un gioco di ruolo pure in questo caso, consideriamo Dragon's Dogma per esempio, là pure il personaggio che addirittura ti crei tu, e quindi magari è anche giustificata da questo genere di giochi dal fatto che tu il personaggio te lo personalizzi, oppure diciamo pure in Dragon Age lui non parla, anche se là già ha la possibilità nel primo di selezionare ai dialoghi però lui non parla, al limite tu potevi scegliere la voce tipo durante gli attacchi, ma infatti questo discorso l'avevamo già affrontato quando facevamo lo speciale di adesso, ma magari passiamo pure la parola a Stefano per quanto possa essere un'altra cosa, per esempio anche in Zombie U, che è un survival horror, in prima persona ci sta molto il fatto che il protagonista però lì è pure mista la cosa, perché lì in realtà il protagonista ha le sue sequenze cinematiche e allo stesso tempo è un personaggio che non parla. Sì. Quindi le sequenze cinematiche in più sono praticamente ridotte all'osso. È come in Dishonored, che fondamentalmente tu la storia la vivi attraverso il gameplay. Cioè su Half-Life, anche in realtà Half-Life è così. Però Half-Life, per esempio, tu il personaggio in realtà non lo vedi mai. Cioè, sì, tu lo sai come è fatto Morgan Freeman. Sì. Però in realtà, cioè, nel senso, non lo vedi mai. No, invece su Dragon Age, perché te lo costruisci tu il personaggio. Dragon Dogma pure, che è tutto in terza persona, sì. Ok, e Zombie U, roba del genere. Però questo comunque poi è secondo me una questione di visione, sì, no? Sì, del modo in cui noi, cioè io ribadisco, siccome che a parte Half-Life non mi sono mai realmente immedesimato, cioè nel senso non ho mai percepito il realismo nella storia, preferisco che la storia mi venga raccontata, quindi io preferisco più il personaggio che esiste, no? Più il Dragon Age 2 che il Dragon Age 1 da quel punto di vista. Però questa poi è chiaramente una questione proprio di sensibilità personale, cioè voglio dire, non è che c'entra più di tanto. Però la domanda che si è fatta Marco è che addirittura questi personaggi proprio non c'hanno. Il fatto è che il gioco in realtà perde molto nel momento in cui il personaggio appunto parla, però è caratterizzato male. Quando nei giochi in cui è caratterizzato male, in cui il personaggio fondamentalmente si nota che è un personaggio bidimensionale di cartapesta, là veramente è decisamente meglio se si fosse optato per una scelta di game design e appunto un personaggio anonimo. Soprattutto quando ci sono, ecco, come in Half-Life 2, più che in Half-Life 1, anche in Dishonored, ci sono proprio sequenze comunque con molti dialoghi, cioè scriptate bene, delle sequenze quasi cinematografiche, e poi ti vedi questo personaggio lì in mezzo che non riesce, non dice niente, non partecipa alle discussioni. Sì, un po' a volte spezza l'atmosfera, comunque spezza la situazione. Che al giorno d'oggi, secondo me, è poco aderente al modo in cui siamo abituati a sentirci raccontare la storia, perché comunque è talmente spersonalizzato, svuotato per necessità, comunque anche per cercare di provare a fare il medesimale, che poi alla fine comunque dai, Stefano. No, io no, non ho altro da aggiungere. Detto tutto voi. No. Una cosa non l'hai detta, però un gioco fondamentale, Stefano. Ah, parlavi forse di Mass Effect. Esatto. Capolavoro. Stefano, guarda che ce l'hanno uno di gettone, due no, poi anche ce l'hanno tre, ma gli ho dato il mio gettone, l'ho fatto. La tua parte io la tengo, ok, perfetto. Ma no, Mass Effect, a parte scherzi, è forse veramente il compimento del videogioco di ruolo moderno, narrativo, che è scriptato ma al contempo a discrezione dell'utente, in cui è talmente caratterizzato il suo universo, eppure ti senti alla fine Shepard. Anche se, scusa Luigi, anche se gioco di ruolo tra virgolette, no? Sì, chiamiamolo action gioco di ruolo, più action che gioco di ruolo, facciamo così. Action di ruolo. Sì, action. Un vedete, poi action gioco di ruolo, più action che gioco di ruolo. Lo utilizzerei proprio come la nuova categoria, più action che gioco di ruolo. Esatto. Ok, veniamo a Peppe. Peppe ha scritto poi successivamente, cioè è toccato a un articolo di Giuseppe che l'abbiamo dovuto un po' frenare perché c'era lì, c'era chi i cinesi. Io non so, premetto che non sono un razzista. Sono gli altri. Sono gli altri che sono di colore. No, a parte gli scherzi, mi sono voluto in questo articolo cimentare su fondamentalmente una specie di second opinion, perché tanto diciamo anche il titolo è una recensione, fondamentalmente recensione con molte considerazioni su Resident Evil 6. Fondamentalmente parte tutto da quello shitstorm che c'è stato in rete a seguito sia dei voti troppo alti della stampa nostrana tipo quella di IGN, sia di tutti i recensori stranieri che l'hanno castrato, stroncato fondamentalmente, dicendo sempre la solita frase: ah, non è più Resident Evil come i primi, e si scade nei soliti luoghi comuni del tipo si stava meglio quando si stava peggio, o quando l'autodistruzione arrivava in orario. Ma è vero, perché infatti i treni arrivano in orario, sì. Assolutamente vero. Ma io fondamentalmente ne ho parlato come un gioco alla fine buono, non ovviamente ottimo, quindi da 9, comunque un gioco giocabilissimo, e in ogni caso nel mio articolo arrivo a dire che fondamentalmente Resident Evil, la saga di Resident Evil, è giusto che devolva in questa sua vena ormai solo action, un po' facendo il parallelismo con i film cinematografici, scusa, che fondamentalmente sono sempre ti faccio una domanda, però, perché trash mi è venuto in mente un discorso che io poi l'ho seguito, abbiamo parlato, e io magari qualche cosa l'ho anche vista, però in questo diventare più simile agli action adventure diciamo di oggi, in realtà non ha perso però personalità, ma al di là del fatto che non è più, perché una volta era così, una volta era con là, se sa, le cose evolvono, non abbiamo detto, il fatto è che una volta aveva personalità perché era uno dei pochi giochi fondamentalmente con gli zombie, ora siamo arrivati a un punto dove i zombie li troviamo dappertutto in qualunque videogioco ormai, ma addirittura pure nei sapete che stasera sono andato a bagno, ho tirato su la tavoletta e ci ho trovato uno zombie, cioè no, se ormai ti rimettono una punta. Ma sai, io da quando guardo The Walking Dead ogni tanto me li sogno, cioè devo dire. E vabbè, chi a rotazione commenta? Un commento su questa considerazione di Giuseppe? Partiamo da Luigi, dai, sempre Luigi, dai. No, non ho giocato Resident Evil 6, però una considerazione magari a voi non la faccio. Sono d'accordo con Giuseppe, effettivamente una volta la novità era proprio il gioco degli zombie con aspetti cinematografici, cutscene, eccetera, quindi tirava tantissimo. Poi, siccome siamo conservatori reazionari in tutti gli ambiti, tutti gli aspetti, però succede che anche nel videogioco si è voluto portare un determinato tipo di fare level design e game design di un videogioco per forse troppo tempo, e quindi si è sentita l'esigenza da svoltare, cioè, perché effettivamente avrebbe fatto ridere un Resident Evil dei tempi addietro ai giorni nostri. Ma poi scusa, dove ci sono sempre gli stessi protagonisti, che è come se non evolvessero mai, sono sempre con lo spauracchio dei rookie contro è un cliché, esatto. Diciamo che si rinnova. Quello che aggiungo è che riguardo Resident Evil, ma riguardo il videogioco in genere, action, è molto difficile oggi trovare una software house che vada a fare veramente qualcosa di diverso, qualcosa di più veramente diverso. Fate caso, molti dei film d'azione che vediamo hanno dei cliché, guardiamo i trailer, che sono più o meno tutti quanti puntati su un determinato tipo di realizzare l'effetto visivo, l'effetto scenico, e quindi andarti a invogliare, come dire, questa è la contemporaneità, la modernità ed è un carrozzone in cui stiamo dentro. Il videogioco ovviamente segue questa linea, e anche il videogioco, in questo caso giapponese, si è buttato sul carrozzone action e ha stravolto completamente quello che era l'estetico iniziale, ma più che stravolto si è aggiornato a quello che la gente vuole oggi, quindi non andrei a dire ha sbagliato Resident Evil perché non è rimasta quello che è stato. Io direi più che altro Resident Evil non ha più la forza di cambiare più di tanto, ma quella invece di armonizzarsi e sintonizzarsi con quelle che sono esigenze action del giocatore contemporaneo. Guarda, io se mi permetti faccio un attimo una considerazione stupida e banale, però stupida e banale fino a un certo punto, perché noi lo abbiamo detto tante volte, no? Che c'è uno schiacciamento verso magari una certa tipologia di gioco o verso una tipologia di film, però in realtà c'è la crisi, e non è una stupidaggine, nel senso che comunque in un periodo di crisi chi produce investe denaro, lo fa sul sicuro. Poi ci sono ciclicamente dei momenti in cui queste fasi passano e riarriva, che ne so, un nuovo rinascimento, un nuovo illuminismo, magari dal punto di vista produttivo e creativo. Dobbiamo aspettare 10 giorni. Eh? Dobbiamo aspettare 10 giorni, una decina di giorni. Dice la fine del mondo. Il 21, poi dopo ci sarà il rinascimento, no? Dicevano così. Ah, dicevano così, Maglia. Vabbè, il rinascimento. Stefano! Sì. Vai tu. Gli zombie mi hanno fracassato gli Zebedei in maniera estremamente feroce, diciamo. Non so bene che cosa dire a riguardo, ma basta. Ma quelli di Resident Evil non sono zombie, però, eh? No, ascolta. Ormai sono mutanti. Sono mutanti. Mutande. Vabbè, sono mutanti, quelli non sono infetti, quelli sono zombie. La bambina muore. Siamo capiti. Io però una volta una bella puntata sugli zombie la farei, però da un punto di vista... Zombie ludici. No, dal punto di vista generale. Partendo... Zombie in Mass Effect 3. No, aspetta. Ma là ci stanno. Tanti, vero, sapevo, sono zombie pure quelli, va bene, cioè, però partirei dalla mitologia dello zombie e arriverei pure alla fine dei videogiochi, perché comunque è vero che sui videogiochi ci hanno un po' sbambollato i coglioni, però non è che c'è tutta questa grande invasione dei zombie in generale, no? A parte, ecco, questo ultimo periodo col fumetto di Walking Dead, il gioco di Walking Dead, c'è Zombie U, c'è Resident Evil, più tutta la fuffa che c'è, ma c'è dappertutto, Special Zombie, esatto, vabbè, aspetta, la fuffa in televisione c'è solo Walking Dead e non è fuffa perché comunque è fatto bene, no, per carità, però allora togli Walking Dead, mettici tutti i film di zombie che sono usciti negli ultimi 5 anni. Quanti ne sono usciti? No, negli ultimi 5 anni che film e zombie sono usciti? Tutto, c'è tutto, tutto in mente. Anche quest'anno è uscito Rec 3, che è più o meno quello. Beh, forse so io che non seguo la Horde. Esatto. Sì. Allora dopo mi fate una lista e mi vado a ricordare. Il primo film di Romero, ragazzi, il primo proprio sui zombie, La notte dei morti viventi. Sì. Chi è che non l'ha visto? Io consiglio sempre di vederlo. Io non me lo ricordo. Perché noi oggi andiamo a fare la pulce al vermicello putrefatto sulla guancia dello zombie, ma in realtà lì era proprio lo spirito, la paura, che, cioè, nel senso, prescindeva da come era fatto lo zombie, eh? Cioè il concetto del morto vivente, della persona che risorge e uccide, no? Sì, ma pensavo che era quello che risorge e cerca di farsi reggere. No, quello no. Quella è un'altra cosa. Quello è un altro zombie. È un'altra storia. Vabbè, Simone. È un mezzo zombie. Io da aggiungere su questo non ho... Cioè, è una cosa, come dicevi te, che si ricalca un po' il percorso già battuto e che garantisce comunque un minimo un guadagno sicuro, un introito. E neanche, cioè, Resident Evil non è neanche l'esempio proprio maggiore, che comunque ci hanno provato a fare qualcosa già dal 4, poi il 5 e adesso il 6. Comunque loro continuano a cercare di trovare una loro via, e forse col 6 ci sono riusciti, per quanto poi il pubblico non abbia così apprezzato a livello, forse, anzi, più di stampa che di pubblico, perché non so le vendite come sono andate. Però se serve a creare qualcosa di nuovo, questo passaggio tocca, perché anche le migliori saghe ci hanno avuto videogiochi, film, quello che tu sia. Tu pensi che al prossimo Star Wars ci saranno i zombie? Vabbè, scusa, o Topolino. Allora vogliamo Topolino tornare zombie. I zombie ci sono pure nel, se prendete Dead Space è una rilettura in chiave fantascientifica, sì, sempre dei zombie, ma funziona. Beh, perché sì, c'è la critica, la prima, quella di Romero, è una critica sociale, esatto. Poi è diventata una cosa puramente di tensione, sì, esatto. Adesso i zombie riescono a cannibalizzare qualunque medium e qualunque genere, quindi. Però c'è un motivo, comunque, c'è una ragione, perché comunque lo zombie, al di là del il morto vivente, comunque fa impressione, è inquietante, sì, è più inquietante del vampiro, no? Di qualsiasi tipo di altra mitologia. Va bene, Stefano. Sì. Tocca a te, c'è l'articolo tuo, vabbè, c'è l'articolo di Nino, ma Nino non c'è, quindi non ne possiamo, anche perché è difficile capirlo. Noi gli vogliamo bene, lo apprezziamo e lo capiamo, però insomma, capiamo. Allora, io ho fatto un piccolo esperimento, ho provato invece che fare la recensione scritta a farne una audio della durata di una quindicina di minuti praticamente, riguardo a Far Cry 3, gioco che, appunto, ne ho parlato anche ieri, quindi mi dispiace per il povero Simone, cognome, che dovrà risentire. Vai tranquillo. ma vabbè, ovviamente però, ancora lo dobbiamo far uscire, però quando uscirà la puntata già sarà online, per quello che interessa. Quindi facciamo finta che siamo nel futuro. Devo farlo parlare. Ma sono sicuro che bisogna farlo parlare. Infatti, il dubbio mi viene, però oramai farlo parlare. Allora, no, quindi sono curioso di vedere, insomma, di sentire qualche feedback per i pochi fortunati che hanno già sentito la cosa. Insomma, non so bene come cosa ne pensi, no? È un esperimento che mi incuriosisce anche a me che lo faccio. Linea di massima, appunto, quindi recensione di Far Cry 3, gioco che mi ha stupito nella sua completezza, nel suo imparare dagli errori precedenti e, insomma, da tutta una serie di fattori che mi hanno fatto riscoprire un po' il coreano che c'è in me, diciamo. Quindi le sessioni hardcore da svariate ore grazie alla disoccupazione che mi colpisce, oppure dai, questo lo... Vabbè, adesso... No, facciamo una cosa, aspetta. Facciamo che lui continua e adesso parla di questo articolo. E poi dopo, quando lo richiamiamo in causa, parla di quello di GoLive. Cioè, chiaramente, no. Vai. Beh, no. Vabbè, ma tu non guardi il sito? Cioè, noi sì, stiamo... ma voi mi avete appena detto di che quando esce l'episodio del podcast... Sì, allora è Marco che ti ha tratto un inganno. Sì, certo, va bene, però non ti aspettare che l'abbiamo sentita, perché... No, i pochi fortunati voi... Pochi fortunati si fa festa a dirlo. Dai, allora, aspetta. 1, 2, 3, riprendi da questo. E poi, dopo, quando te lo diciamo, cioè, nel senso, quando ti richiamiamo in causa, ovviamente dobbiamo parlare di quello di GoLive. Se poi taglio. No, oramai ne ha parlato. Vai, cioè, No, quindi, appunto, che mi ha fatto riscoprire tutta una serie di cose riguardo al giocare in maniera intensiva, fare tutte le missioni secondarie, cose che non facevo da anni. Appunto, io negli ultimi tempi andavo diretto, seguivo la storia principale anche in giochi come Batman, Arkham City, Asylum. Missioni secondarie forse ne avrò fatto due, ma giusto per provarle, ma non sentivo di... nel bisogno davvero di completare la storia. In questo caso invece, nonostante non sia forse non è un capolavoro, il gioco sicuramente non è un capolavoro, però ha un insieme di cose ben gestite, ben organizzate che mi ha preso. C'è poco da dire. Non so chi altri l'ha giocato. Io sto ancora giocando. Sto ancora giocando però nel frattempo sono stato catturato dall'online di Star Wars, per cui un attimo sono rimasto indietro, però sì, è simpatico, carino, niente di eccezionalmente nuovo, devo ancora capire, perché lui c'ha un telefonino e non chiede aiuto a nessuno. Quello che stavo dicendo ieri, guarda, su Freeplaying, esattamente la stessa cosa. Ho detto, ma chiami la polizia, qualcuno, il cellulare sembra di quelli satellitari, quindi a livello internazionale, un telefono non l'avranno in quest'isola. Quello sì, ha dei buchi nella trama o dei bug, anzi nella trama, che sono evidenti, però rimane sicuramente un buon titolo da cui, per una persona che non si aspettava niente, insomma, è un gioco giocabile, un gioco molto giocabile, è un gioco giocabile, va via come il pane, dai. Però ecco, se vi piacciono gli action FPS, anzi no, gli FPS RPG free roaming con ambientazione tropicale. A me mi è sembrato molto simile a quello precedente. Sì, ma è molto simile a quello precedente. Simile. Ma il precedente però non aveva tipo elementi RPG, se si ricorda. No, quello no. Non aveva i tatuaggi. I tatuaggi magici. Tatuaggi magici. No, il Fast Travel, finalmente Alpha Travel, che ormai non ti... Ma tanto c'è la macchinetta, Ma sai, uguale. Ma però, tra l'altro, la cosa brutta del secondo è che tu andavi, sfondavi a ogni croce, c'era un posto di blocco, lo sfondavi, dovevi ammazzare tutti quanti ovviamente, dopo due minuti tornavi indietro, ci restava l'altra volta lo stesso posto di blocco, per gente che si chiama respawn. Sì, ma respawn dopo due minuti, coglioni, cioè alla fine ammazza quanto sono veloce di cosa. C'è stata proprio la gente che correva a riempire il vuoto lasciato dai morti proprio. Luigi, tu Far Cry 3? Io non l'ho giocato, l'ho preso non dispongo di tutte le finanze che invece c'ha Stefano quando potete dire un videogioco. Si chiamano finanze alternative quelle. Luigi però ci sta andando sotto da quanto vedo da Raptor con Skyrim. Sì. No, questo ecco è... la 4. Ma adesso stiamo parlando, scusami Simone, di cosa giocheremo per Natale? Sì. No, stiamo parlando di... vabbè, perché lui Stefano sta parlando di un articolo che in realtà ancora non è stato pubblicato su Far Cry, e quindi appunto a questo a proposito abbiamo colto l'occasione per parlarne un pochino. Ok, guarda, non conosco spesso, mi capi, la storia del 3 per i trailer, mi sembra interessante, mi sembra anche una cosa da approfondire, perché come lo considero questo davvero un gioco survival e non il Resident Evil, qualcosa di simile, mi sembra molto più vicino alla concezione survival moderna. Comunque io ho giocato Far Cry 2, ce l'ho nella mia diciamo confezione speciale, l'ho trovata, quella cartonata che è tipo scatola in legno, e posso parlare soltanto del 2 un minuto, accennando che mi è piaciuto tantissimo le missioni, soprattutto mi è piaciuto come il clima influiva sulle missioni, quindi andare a fare colazione di notte in un'Africa totalmente aperta e visitabile era molto differente rispetto invece a fare colazione di giorno. E sono arrivato a metà della storia, sto prendendo la seconda parte, la devo quindi terminare, ma mi permetto di farlo, e dico soltanto che è una bella produzione per Cry, non la consiglio insomma. Ma io aggiungo, Luigi, che in questo Far Cry la parte survival proprio pura si sente di più grazie agli attacchi abbastanza randomici degli animali, cioè se tu ti ritrovi nella zona di caccia di una tigre, ad esempio, la tigre ti attacca, e la cosa è abbastanza frequente, tra virgolette, cioè può capitare, non è un evento eccezionale, idem se nuoti, può attaccarti uno squalo, un coccodrillo e così via. In più nella storia... è una cosa brutta, Stefano, che a me ma un coccodrillo mi ha bagnato perché stava andando dentro l'acqua, allora mi è arrivato, mi si è ingarato. Ma io non ti ho detto, non ci ho giocato perché non è spettato a me recensirlo su altri libri, ma è vero che ci sono pure tipo gli animali che se gli gira vanno a attaccare pure gli avamposti che tu dovresti andare a distruggere. Teoricamente sì, no, ci sono degli animali spesso che vengono tenuti prigionieri dentro le gabbie, se tu le rompi praticamente questi vanno in giro. Sarebbe la variante del barile esplosivo, sì, qualcosa del genere, sì. Cioè anche il barile esplosivo oppure le colonnine della benzina, diciamo, da far saltare in aria, o anche le scatole di munizioni, divertente è quello, sono munizioni che tu puoi utilizzare, puoi prendere, oppure puoi scegliere se fare uno spettacolo pirotecnico che attira l'attenzione, uccide un po' di nemici, insomma. Senti, Stefano, ma l'ambientazione è sempre una tipo un'isola sudafricana, no? È un'isola, però in questo caso non è tropicale, non è sudafricana. Vabbè, è piena di persone di colore, giusto? Sì, c'è una ok, ma adesso uscirà la polemica che praticamente nell'isola sudafricana non è normale che pieno di negri che muoiono. Se tu gli spari, sì. Questo dell'Africa, della verità. Perché ne abbiamo sentite tutti i colori negli ultimi anni, no? Nel senso con Resident Evil 5 è stato il maestro. Ma tu pensa che l'ultimo true crime, come si chiamava? Porco cane. Oddio, Sleeping Dogs, pensa, un sacco di cinesi morti, cioè non pagavi quanti, una marea. Ma infatti vogliamo leggerla la vignetta che ha fatto chi la legge? Leggi, Marco, tu che sei più... Chris, t'ho detto che questo gioco non è Resident Evil, è la merda. Leon, ma di che ti lamenti? Almeno tu spari gli zombie. Dopo gli africani, questa volta mi hanno rifilato cinese. Però ci sta, dai, ci sta. No, dico un'ultimissima cosa su Far Cry, che è anche una strana semicomponente castanediana nel suo percorso attraverso le droghe psichedeliche. Che c'hai? La componente che? Castanediana, Carlo Castaneda. Vabbè, ma cioè, voi considerate insomma che qui c'è sta pure Simone cognome, mica siamo tutti laureati. Comunque, quindi tramite il suo percorso nell'avvicinarsi alla tribù originaria dell'isola, attraverso una serie di prove, una serie di droghe psichedeliche, una cosa che un po' mi ha ricordato la tua gioventù, il primo libro di Castaneda. Okay. E basta, più o meno quello, insomma. Se, una serie citiamo il libro La scuola dello stregone. per chi ci ascolta magari vuole leggere un compendio dei videogiochi che chi ci ascolta non legge neanche i nostri articoli, cioè ma dai, non leggiamo manco noi, figurati. Neanche noi, noi prendiamo nota, noi, esatto. Noi prendiamo nota e facciamo finta di essere quelli che un po' ne sanno, insomma, wow. Chiaramente. Ok, Marco invece si è giocato un giocheriello, perché qui noi in realtà questo sito doveva essere di critica al sistema videoludico, invece poi famo solo recensioni. Però fino a che lo fa Giuseppe c'ha senso, perché lui lo fa di mestiere, ma insomma noi che non lo famo di mestiere non potremmo. Però Marco si è giocato un gioco che ci stanno l'orchi. Stanno l'orchi, Orco Giuda. Orco Giuda. No, è stato, si chiama Of Orcs and Men, è praticamente è un gioco che parla del rapporto tra orchi e uomini, cioè in questo mondo fantastico, conflittuale assolutamente, di cui già mi sono dimenticato il nome, non so neanche se ce l'avesse, dove gli orchi sono stati ridotti a poche tribù ribelli e schiacciati dagli umani che li schiavizzano, li trattano come bestie, gli fanno fare come negri, cioè no. Si fanno fare quella fine, però purtroppo è così, ho capito, però cioè brutta, cosa brutta, però è così. Marco, scusami se ti interrompo, però per come l'hai messa, l'hai raccontata finora, spero che poi qualche cosa cambi, ma sembra anche più o meno la storia dei primi Warcraft. E fondamentalmente è simile tra orchi e umani. Praticamente il protagonista di questo gioco, che è Arcale, è un orcone. Gli viene data una missione che, grazie a alcuni aiuti provenienti da umani simpatizzanti, praticamente ha la possibilità di uccidere l'imperatore degli uomini per far insediare un altro imperatore più tollerante verso i. Ah, quindi non è basato sul contro sterminio. In realtà loro ammazzi il capo e poi cerchi di fare una regola. Vabbè, sta un po' più simpatico. Esatto. Sennò se il gioco deve essere che dobbiamo morire tutti, mi sta un po' sul cazzo. Assolutamente. C'è questo Arcale che praticamente è il classico berserk orco che perde le staffe. Ah, già fatta. Poi c'ha pista chiunque, dietro. E c'è anche il Goblin Stige, che è l'unico goblin con la capacità di parlare e di capire, perché tutti gli altri sono più simili ai animali, e si incontreranno. E tu questo dici, ma perché? Perché è importante, perché poi dopo ci viene anche spiegato il motivo, verso la fine del gioco c'è un motivo particolare che non stiamo a spoilerare. E comunque è importante questo turismo, perché mentre Arcale è quello che praticamente prende a cazzotti tutti quanti, il Goblin Stige è quello che praticamente deve essere mandato in avanscoperta per fondamentalmente sgozzare le varie guardie in modalità stealth, perché lui è più la modalità stealth, in modo da sfoltire i ranghi nemici, perché sennò poi se arrivano 5 o 6 nemici contemporaneamente e ti cominciano a ammazzolare, soprattutto se giochi con il livello difficile come ho fatto io, diventa complicato. Ma che tipo di gioco è? Allora, è un gioco che io mi aspettavo essere un classico spazio ammazzo, vado lì e invece sa, bella sorpresa, bella. Anche se piacevole sorpresa, dai, perché il sistema di gioco era è uno pseudo combattimento a turni, tipo quello che c'era a KOTOR, non so se avete giocato a Knights of the Old Republic, quindi c'era una coda di azioni qui bisogna inchinarsi, però quando si dillo KOTOR, tutti giù bravi, ok, perfetto. Che praticamente permette di fare fino a 4 azioni, tra azioni di attacco, azioni difensive, azioni speciali, non entro troppo nell'argomento. Anche perché tu palle. Anche tu palle. E che quindi permette di creare delle coordinazioni, di fare in modo di abbattere i nemici combattendoli non direttamente, cioè tu clicchi sul nemico, gli dici che tipo di colpo ha fatto e via dicendo. Ci sono dei problemi, ci sono dei bug, perché questa qui è la Spider, mi sembra che adesso non mi ricordo il nome della società, mi sembra Spider, non lo so del genere, Spider, non mi ricordo, è poco importante. Basti, è una società abbastanza piccolina, per cui insomma, comunque un gioco indipendente, questo abbastanza indipendente, sì, infatti si viene anche perché anche se la grafica è discreta, non è proprio il top della tecnica, top del top. Ok. È un gioco che tutto sommato mi ha lasciato una buona impressione, perché soprattutto se giocato a livello difficile, perché a livello normale penso che sia abbastanza, come tutti i giochi d'oggi abbordabile. E, insomma, devi pensarci prima di buttarti lì in mezzo a sparare a destra e a sinistra, ci devi pensare un secondo come devi muovere. Okay. Quindi c'ha le sue peculiarità. Quanto, come, che valutazione hai dato? Verde? Se no, sai che me la sono dimenticata, però fa vedere, sai che io dimentico facilmente le cose. Mamma mia, no, questa è proprio... come se l'avessi fatto io poi, eh. Chi è che l'ha visto sto gioco? Chi è che lo conosce? No, io non lo sapevo. Tu non ne sai. L'avevo sentito, ma non ce l'ho mai. Il suo nome e basta. Ok. Quindi vabbè, andiamo avanti. Perché tu, Luigi, penso che. Vabbè, presto sì. Uscirà anche quella su Lucius, attenzione. Vabbè, poi dopo ne parliamo un attimo. Perché comunque, vabbè, l'articolo successivo è un articolo che ho scritto io. È un po' una marchetta in realtà, mascherata da discorso filosofico, ma in realtà è una marchetta, perché spiego le motivazioni per le quali sono, cioè, siamo arrivati ad aprire archeologia videoludica. Poi dietro. No, archeologia videoludica è l'articolo su archeologia videoludica. Ah, ok. No, quindi solito problema. Poi vabbè, c'è stata recentemente questa bellissima puntata, insomma, dove c'è anche già un commento, ma dopo magari alla fine di puntata ci arriviamo. E poi tocca a Simone, che Simone, insomma, ha scritto la terza elucubrazione di altre due che non esistono. Ma è un po' come George Lucas, lui parte dall'episodio 6, ma non è che sono correlati, non è che ti perdi niente se hai letto. Ah, non so, sono autoconclusivi, okay. Ma facciano parte di una collana, quindi è una serie, non è un serial. No, è una serie, okay, infatti. E vabbè, si chiama Flusso di coscienza, su un altro sito dove era stato pubblicato. E puoi dirlo, se vuoi, parliamo di videogiochi. No, puoi dire, lo dovevi dire prima. Parliamo di videogiochi oppure sul mio blog. Ah, sul tuo blog, vabbè, che sarebbe? Voglio diventare grande.blogspot.com. Carino. Poi dopo diciamo pure quello di Peppe. Ok. E facevo una riflessione sul fatto. Poi è venuto il discorso prima anche rispetto a Dishonored, ai personaggi che non parlano, no? Cioè, c'è stata questa eccitazione inconsapevole. Perché io faccio il punto della situazione su l'importanza che hanno avuto storicamente i supporti per il mondo dei videogiochi. Beh, certo. Passando per tutto, eh. Sì, vabbè, certo, però questo era riferito. I supporti supportano. Dal cestino alla busta di plastica. Esatto. Allora, sono supporti, poi era riferito esattamente a quello. Nel senso dall'inizio con le cartucce, sì. Poi le cartucce che sono diventate i floppy disk. Sì, sono diventate floppy disk, ma Nintendo aveva questa particolarità dove forse pure altri mi diranno, mi confermerai, okay, sempre, sì, con Mega Drive, System avevo sì, appunto, non so se usavano la stessa cosa, sì, ma sì, Nintendo almeno sempre cartucce, sì, no, quello che intendo è che parte dell'hardware era nella cartuccia, sì. Tanto che potevi addirittura aumentare la potenza della console, cioè, no, con l'aggiunta del, che era Mod 7, sì, esatto. Tutto quello che è stato l'unico vero vantaggio delle cartucce, questo. Sì, quello e poi la pirateria. Sì, anche se pure lì, insomma. Allora, più che altro il fatto delle cartucce è i caricamenti istantanei, cosa sì, esatto. Che ormai ci sogniamo che come minimo tra una scheda tra una mappa e l'altra almeno una decina di secondi ormai si perde. Tu considera The Walking Dead su PlayStation 3, dico ok, è tutto residente sull'hard disk, no sarà anche su PC, sì, pensare, sì. Che vabbè, cioè, lì comunque, meno, perché comunque tecnicamente il gioco, insomma, lascia. Vabbè, comunque, scusa Simone. No, il discorso era che in base ai supporti, appunto, abbiamo visto un'evoluzione dei videogiochi che è andata da una parte rispetto a un'altra. Nel senso, per esempio, quando arrivò il CD, ci fu l'esplosione dei full motion video, che anche se non c'era bisogno, se erano superflui, erano riempiti. E uguale oggi si assiste a. Io sto andando proprio all'essenza dell'articolo, però insomma, si assiste per esempio ad oggi al Blu-ray, con l'arrivo del Blu-ray e dell'HD DVD, quando c'era, insomma, quando ci hanno provato, al fatto di riempire il disco con cose che non servono assolutamente niente, oppure con la possibilità di comprimere o no le texture, tutto quello che poi è il processo di produzione, perché ci tirano dentro le colonne sonore, per dire, che magari... sì, perché nel Blu-ray, per dire, c'entrano 25 giga, mentre nel DVD dual layer della 360 ce ne entrano 8. E c'è addirittura si tiene una differenza anche per quello. Addirittura la sua PS3, certe cose appunto le devono colmare con cose che non c'entrano niente rispetto a quello che potrebbero fare sul gioco, Perché? Perché devono rispettare anche la console più meno potente, insomma, meno, o meno capiente. Meno capiente. Cioè, esatto. Ora, poi sai cosa? A parte che è un discorso che abbiamo fatto anche negli articoli nei quali ovviamente parliamo, cerchiamo di raccontare un po' anche la storia dei film interattivi o delle avventure come sì, sono evolute e tutto quanto, no? Però c'è un aneddoto, così lo racconto, poi dopo andiamo magari a esprimere ognuno una considerazione. Facciamo il giro, Luigi, Stefano, Peppe e Marco. Io mi ricordo che quando mi comprai un 386, io parlavo insomma di tantissimi quello anni che faceva i calcoli sbagliati, allora. No, quello era il Pentium, era il Pentium 60, anzi mi pare che forse era, no, sì, insomma era un 386 o un 486, mi ricordo, insomma, lo pagai tipo 1.200.000 lire, una cosa perché impressionante, e il monitor già ce l'aveva. Fare sempre il raffronto con i mobili, cioè col mobile di casa. Sì, e beh, considera, insomma, 1.200.000 lire, quanto possiamo parlare, un 386 quanti anni fa possono essere, 15 anni fa? Prima del 2000, 1998, 99. No, prima, perché poi sono stati Pentium 91-92, quel periodo. Ok. E mi ricordo che contestualmente ero in un negozio, avevo già comprato, mi ero già fatto dare i soldi da mio padre, quindi avevo in mano sto 1.200.000 lire, e il pomeriggio sarei dovuto andare come c'era Buonaventura e il pomeriggio sarei dovuto andare a ritirare questo computer, che nel frattempo l'avevo ordinato, che me l'assemblavano e tutto quanto, e ero entrato dentro un altro negozio, così non mi ricordo per quale ragione, l'amico mio gli serviva qualche cosa, roba del genere, e sopra in alto su uno scaffale c'è stava il multimedia kit della Sound Blast 800.000 lire. Il multimedia kit da Sound Blaster era una cosa fantastica, perché era il CD-ROM, poi c'era sta cosa con tutta la scatola con questi effetti vedi i colori, no, li riproducevano dappertutto, perché ti immaginavi questa cosa, il laser, no, del CD e roba del genere, la scheda audio, quindi c'era il lettore CD, la scheda audio, e c'erano dei CD dentro, delle enciclopedie delle enciclopedie a cazzo, cioè sugli animali, insomma, un po', insomma, delle cagate immonde. E io rimasi folgorato, io ho queste 800.000 lire e me lo so comprato. Boh, però poi dopo non c'avevo più i soldi per andare a comprare il computer, quindi ho dovuto telefonare al negozio dicendo che sei andato il giorno dopo, e già quelli si erano straniti, perché io comunque ero pischelletto, quindi dice questo ci sta a far perdere tempo. E ho dovuto chiedere a mio padre se il giorno dopo mi portava altri soldi, che grazie a Dio, insomma, quella volta non fece una piega, perché insomma. Io... Che per questo c'è un bambino che ha pianto. Ah, sì. Qualche parte nel mondo, sì. Italia ha pianto. Potrebbe sì. Anche darsi, però c'era il multimedia. E mi ricordo nell'era del. E questo poi fa vedere quanto poi i supporti hanno portato grande evoluzione, ma allo stesso tempo nell'entusiasmo o nella speculazione anche. Se vi ricordate, quando è uscito il CD-ROM con le schede audio, uscì subito la versione di Defender of the Crown. Lo ricordate? Con la recitazione in inglese antico. Sì. Che il gioco era identico, cioè nel senso non apportava niente. Vabbè, ma pure molte avventure LucasArts vennero rilasciate con il Talkie. Esatto, con la versione Talkie. Che io me le so comprate tutte, quindi posso dire tranquillamente, io le avventure LucasArts, Lucasfilms me le so giocate tutte le versioni. Poi ti ricordi col CD-ROM cominciarono a uscire tutta quella serie di avventure che non chiamo avventure, che erano più dei minigiochi tipo Seven Guests, Eleven Hour, che sì, erano sì. Fondamentalmente Tex Murphy, sì, che erano proprio full motion video e basta, anche sì, esatto, sì, a manetta. Anche se secondo me il CD-ROM ha fatto bene a, per esempio, avventure come Myst, sì. Che invece è a livello d'atmosfera è stata forse la prima, no? Che veramente ci aveva. Questa era la prima in prima persona, credo. Adesso non sono sicuro. Beh, no, le avventure grafiche, quelle insomma standard, sono sempre state tutte in prima persona, ma era bella l'atmosfera, il suono, la grafica era molto bella. No, lo dico dell'era moderna. Ah, sì, sì, rispetto certo. A Monkey Island, che in terza persona era quella dove ti muovevi in un ambiente 3D e balle varie e ti sentivi male pensando a come risolvere gli enigmi, mannaggia Myst. Ma anzi, io mi sentivo solo quando giocavo a Myst. Ma io soprattutto non faceva l'errore di ogni due o tre schermate di romperti i coglioni con i filmati. Esatto, sì, sì, sì, era puro gameplay. Incontravi verso la fine le due persone che tipo col full motion video che ti parlavano. Ma poi a parte l'introduzione dove tu diciamo cadevi nel mondo, poi tutto il resto era gameplay, puro gameplay. Luigi, abbiamo fatto una cifra di digressioni, però un acchiappa, buon pindarico. Acchiappa il punto che te pare, di la tua, insomma. Dunque, adesso siamo nella sezione quello che giocheremo, giusto? No! Quasi. No, siamo nella sezione che se ti ricordi quando è nata l'era multimediale, no, con i CD-ROM. Ho letto più volte. Un attimo, quest'altro ho letto anche l'articolo. È grande. È preparato. Che era il primo in ordine. Bravo. Quindi dunque sui supporti mi è piaciuta la riflessione sul fatto che le software house sono costrette a concentrare la loro creatività a seconda del supporto, o quantomeno a diluirla e quindi a farla venire qualcosa di un po' più trascurabile se lo spazio è tanto che deve essere riempito. Mi fa pensare al limite congenito dei game designer quando si lamentano delle performance della macchina, cioè mettiamo caso, ho sentito dire diversi sviluppatori ultimamente, non ho potuto implementare questa visione al tempo perché la macchina non era capace fino a un certo punto, e quindi la mia visione è sempre stata zoppata, la mia visione artistica del fare questo videogioco, dai limiti della macchina stessa. Non credo si possa fare lo stesso discorso per i supporti, nel senso che è vero che ci sono limiti di spazio, però lo spazio non ha mai creato un impedimento alla creatività. Penso semplicemente che quello che si voleva mettere nel... Ecco, vi faccio un ricapitolo un attimo. C'è sempre una stretta sinergia fra la produzione delle console e i supporti con cui andranno a performare il software che girerà su queste console. Quindi, per intenderci, è stato creato, che ne so, il formato DVD perché era pronto il mercato per tante full motion video, perché il gioco si stava sviluppando verso questa direzione e altro, così come era pronto il mercato per Sony per spingere con il Blu-ray. Quindi se magari non l'ha sfruttato a livello molto di videogioco questo Blu-ray, cioè le differenze tra Xbox e PlayStation 3 molto si sono rivelate soltanto una questione di ci ficchiamo più roba nel Blu-ray, non quello invece corrisponderà a un gioco migliore, avere più spazio. Sicuramente però Sony ha voluto fare questo discorso perché doveva spingere il proprio prodotto, il proprio Blu-ray, quindi diceva facciamo un'ottima sinergia fra una macchina e il Blu-ray, sia come lettore di Blu-ray, sia come per macchina per videogiocare. Che poi è stato il motivo per cui in realtà non me la so comprata, me l'hanno regalata per il matrimonio. Ma è stato il motivo per cui me la sono fatta regalare per il matrimonio, il fatto che c'era anche il Blu-ray. Non sei l'unico, credimi, perché al tempo c'erano diversi altri lettori standalone di Blu-ray, molto. Però molta gente ha preferito la PlayStation. Vabbè, anche perché costavano anche, di più. Anche prima è lo stesso motivo per cui io, per esempio, non ho mai comprato altri lettori DVD e aspettai di potermi prendere la PS2. Sì, perché comunque ha un prezzo che sicuramente non era, però comunque tu prendevi due oggetti. Esatto. Sì. Quindi quello che penso è questo, per concludere, non c'è mai una discrepanza fra quello che si vuole creare come videogioco, quindi tool di sviluppo di un videogioco, e il supporto di lettura che la piattaforma avrà quando uscirà sul mercato. Questo per intendere che cosa? Che oggi stanno già sviluppando, ad esempio, dei videogiochi per le nuove generazioni di console, che tengono di conto i nuovi formati e le nuove capienze dei prossimi CD, li chiamo CD ma sono dischi adesso, che avevano volete. Tu infatti Luigi sai che Mass Effect 4 uscirà probabilmente con i nuovi supporti, no? Certo, ecco. Sì, Mass Effect 4 avrà un supporto sinaptico, nel senso si collegherà dietro al cervello direttamente. Oh madonna, tutte queste cose inquietanti. Diversi programmatori che hanno perso la vita perché non potevano testare. Luigi, basta che non sia un supporto anale come il 3. Beh, io penso che c'è qualcuno che apprezzerebbe anche quel tipo di supporto. Purtroppo ci sono le persone che apprezzano anche queste cose. Sì, magari non troveranno un mercato. Non mi sento di criticarle, ma non mi sento neanche di appoggiarle. Non li voglio condividere. No. Sì. Comunque, ecco, ogni generazione di console ha il supporto che merita. Questo è per chiudere la mia. Anche ogni giocatore ha il supporto che merita. Sì. Stefano? Ma allora, su supporti io dico che secondo me dipende molto dai programmatori, perché se uno pensa a Star Fox o a Super Mario World per Super Nintendo e poi pensa alle console successive, quelle che poi sono state, nonostante avessero delle caratteristiche tecniche molto più elevate, il 3DO, il l'Atari Jaguar eccetera, avevano una libreria di giochi che per il 99% faceva schifo. E il Philips CDI, quindi... mitico il CDI, eppure con quel sistema, il lettore di CD con i filmati, con questo e quell'altro, però alla fine venivano sfruttati male per una serie di ragioni. Quindi in realtà come dire, è possibile realizzare qualcosa di bello anche con poco, dipende chi lo realizza, a quanta voglia di sbattersi. Cioè Zelda per 3DO per CDI è orripilante, è meglio Maniac Mansion per il primo Nintendo. Ma perché è uscito Zelda per CDI? Sì. Ben tre Zelda. Quando Zelda Zelda Adventure, Link, cos'era? Wand of Gamelion, Link Manifest of Evil e Zelda World of... Però allora ci deve essere tra Philips e anche Hotel Mario, che esatto, Hotel Mario, bravo, che era bruttissimo pure, che però si faceva la riflessione sul fatto che comunque quel gioco era stato l'unica volta che Nintendo concedeva una sua licenza all'esterno, però evidentemente se l'ha fatto con Mario, l'ha fatto pure con Zelda, se vede che trassi. Ma dopo quelle volte sono state le uniche volte, tant'è che infatti risultano dei giochi Nintendo apocrifi che Nintendo disconosce. Esatto, disconosce. Però ci deve essere un rapporto tra Philips e Nintendo. Sì, c'è il rapporto perché praticamente in teoria Philips doveva produrre la nuova console, e poi in realtà ha preso accordi con Sony ed è uscita poi la PlayStation. Che poi pure con l'accordo con Sony non è andato proprio come doveva. Sì, esatto. Sì. Stefano, continua. No, quindi appunto. Ah, hai finito? Vabbè, allora basta. Scusa. No, stavo a fare una battuta, vai. No, falla a questo punto. No, ho detto, vabbè, allora hai finito, ciao. Se è finito, dimmelo tu. No, vai. No, allora, quindi appunto, secondo me è proprio dipende da chi crea, da come crea, non tanto dal supporto, si può fare qualcosa di bello con poco. E io ho sempre un certo feticismo invece per il Laserdisc, non so perché, ma... Non so, che mi ricordano i vinili. E a tal proposito? E a tal proposito? Dragon Slayer. Scusa, puntata di archeologia su Dragon Slayer. Lo vedi. Bisogna fare sempre questa marchetta gratis, naturalmente. Però non è come quella del BioWare. Dai, in realtà. Non ci vai, No, quindi appunto il Laserdisc, che era un supporto che forse era il primo che permetteva il suono Dolby, mi pare. Penso di sì. Una serie di funzionalità incredibili. 1.1, ricordo quello, l'ho già citato in un episodio di Retrocast, in questo caso mi faccio pubblicità da solo di nuovo. Invece per quanto riguardava il Neo Geo CD, che anche lì diceva, mi sembrava proprio l'apice della qualità di giochi su CD prima chiaramente dell'avvento della PlayStation. Poi in realtà non è che avesse queste, cioè aveva giochi penso per la totalità bidimensionale, perché non ricordo giochi 3D, o almeno insomma 3D come lo intendiamo. No, ma non era neanche la macchina, insomma, che, cioè. No, infatti, ma mi sembrava l'apice massimo del supporto CD, cioè, guarda che sprite. E pensare che, lo diciamo magari per gli ascoltatori molto più giovani, Monkey Island il 2 era su 7 dischetti. Su Amiga era 11. 11 dischetti. So perché ce l'ho, però lo dico. No, ce l'ho perché io prima lo comprai. Feci la cazzata di comprarlo piratato, che più o meno costava quanto quello originale. Sì, perché erano tanti dischi, è vero. Cioè, poi quando tu li compravi piratati i giochi, ogni tanto qualche floppy che non funzionava. Sì. No, io i giochi della Lucas. Capitava, e l'ho dovuto ricomprare originale. No, io i giochi della Lucas lo dico, cioè ho comprato tanti giochi pirata, non faccio come quelli che dicono no, io non ho mai presi, perché sarebbe una bugia, no? A parte che 30 anni sono passati. passati, quindi c'è anche una ricca prescrizione. Però dico, nel senso, io i giochi da Lucas sono gli unici giochi che ho sempre assolutamente comprato in originale, sempre. E cioè, Zack, che era su due dischetti, era già, eppure lì sua amica te faceva, perché ogni volta che tu facevi l'azione ti diceva cambia il disco, però ti dava comunque allo stesso tempo il segnale che avevi azzeccato la cosa che dovevi fare, perché se dovevi andare a caricare l'informazione vuol dire che eri andato avanti, avevi fatto qualcosa, no? Perché sennò non caricava. E poi ci furono l'epoca degli hard disk, e poi, come abbiamo detto, dei CD-ROM, che oggi CD-ROM ci sembrano CD-ROM i dischetti, ormai sono ci sembrano i floppy disk da allora, esatto, sì. Capito? Cioè, eppure il CD-ROM c'era un sacco di roba dentro, capito? L'enciclopedia dell'universo in carta. Che non c'era un cazzo dentro, utile in carta rispetto a Wikipedia, per dire, cioè. Sì. Non c'è paragone. Mi chiedo, ma la velocità con cui i supporti cambiano adesso? Perché prima ci siamo tenuti da cartucce o i floppy per un tempo notevole, comunque. Ma i floppy sono stati più lenti. Però le cartucce, cioè, modificavano l'interno delle cartucce, cioè comunque le componenti non erano sempre le stesse, quindi in qualche modo miglioravano le memorie, miglioravano. Quello sì, però in linea di massima, adesso, quello era hardware fondamentalmente. Per adesso secondo me è rimasto un buco, cioè qualcosa da affiancare ai Blu-ray. Quindi per quello ce ne stanno tanti adesso i supporti, secondo me. Pure ma anche attacchi, con la questione esempio delle VHS, beta, sembra che sia iniziato un po' lì. Sì, quello sì. Perché comunque se riesci a garantirti il brevetto, campi di rendita come Philips col CD. Quello sì, è vero, ma CD, ricordiamo che da 86 che ancora gira, lo sapete. Chi? I DVD, chi è che li ha? Ma guarda che sono tutti i brevetti Philips quelli, No, sì, il DVD no, era era Toshiba. Non so come. Erano 3-4 che si sono unite. Perché poi noi da quando è che abbiamo iniziato ad usufruire del CD? Nell'82, 83, 85? In Italia al 90. Anche anni 90 in Italia. E in realtà il brevetto è del 78, sì. No? Del CD. Del CD. No, però non avete proprio l'impressione che i supporti cambino molto più velocemente? Cioè noi abbiamo messo gli hard disk che rimangono. Ma adesso no, adesso secondo me migliorano. Esatto. Migliorano, ma non cambiano. Prima cambiavano proprio, adesso migliorano. Cioè, alla fine, se tu vai a vedere il supporto del CD, il video CD, il DVD HD o il Blu-ray, alla fine il supporto quello. Allora DVD era un Philips, Sony, Matsushita, vabbè, no, Warner, Toshiba, JVC, Thomson e poi. Philips. Ma un po' tutti. Alla fine la Philips scrisse quel libretto rosso là, libretto blu giallo, come si chiamava, roba già, e da lì c'è stato, quella è stata il grande passaggio del futuro. Ci hanno fatto 40 anni, sono 40 anni che stiamo ancora su quel brevetto lì. Stefano, scusa, tu forse cambia il supporto, cambia velocemente, intendi supporto tipo PS Vita, è diverso da UMD, che è diverso da quello per Nintendo DS, questo stai intendendo? Sì, appunto. Cioè, supporti proprietari, stai dicendo. Esatto. Dico, si passa dal DVD al Blu-ray in meno tempo di quanto magari si è passati dal CD al DVD. Ecco, in questo senso, non tanto proprio alla forma del supporto, sono sempre dischi, quello sì. Però se mettono le dimensioni, ma poi alla fine è quello, cioè 45, 33 giri. No, vabbè, però secondo me il fraintendimento è più proprio semantico, perché cioè, nel senso, un tempo, come diciamo, c'erano stavano le cartucce, i floppy disk, poi sono venuti i CD e poi dopo sono venuti, cioè nel senso è che secondo me il DVD è fondamentalmente l'evoluzione del CD. Non è un cambio di supporto, capito? Cioè, nel senso. Però ha richiesto comunque di comprare certo. Apparato. Mi sembra che l'acquisto di nuovi apparati insomma, passi sempre meno tempo tra il cambio completo. Lì è un altro discorso, quello è proprio il marketing di spudorato. Viviamo nell'era dell'obsolescenza programmata, no? Cioè. Quello non lo metto in dubbio, però mi chiedo se c'è. Cioè, nel senso, se anche prima questo sarebbe stato possibile, o era, cioè, anche prima era una cosa studiata, sicuramente era una cosa studiata, ma perché allora anche prima non si faceva così, non si passava al supporto di base, quindi al lettore floppy, poi al lettore di CD, in meno tempo rispetto a quanto adesso si passi dalle lettori DVD alle lettori Blu-ray, ad esempio. Cioè, io mi sono girato, ho detto, ah, mi sono volato il lettore DVD, mi sono girato, cioè, ah, guarda, sono usciti i Blu-ray, che cazzo. Ma lo sapete che pensavo? Pensavo che Simone avesse scritto questo articolo sui supporti, fosse una... così dico, vabbè, boh, ha buttato. E invece è l'articolo sul quale stiamo discutendo proprio a lungo. Quindi bravo Simone, bravo. Grazie, bravo, bravo. Senza bravo. Capirci una mazza poi. Assolutamente. In quello che diciamo, cioè, stiamo dicendo 10 cose diverse. Ognuno però, fa il suo discorso. Adesso tocca a Peppe a dire la sua, giustamente. Su, ma secondo me l'ascesa in campo è... No, io più che altro mi riallaccio con una riflessione futura che poi in realtà è anche l'articolo che Stefano ha saltato, che in realtà questi supporti, visto che ormai siamo arrivati a una fase un po' di... Ma è vero, si collegano, secondo me. Con i Blu-ray, il futuro ormai, lo diciamo già da diversi anni a questa parte, è nel digital divide, nel digital download. E appunto, quindi, i supporti alla fine spariranno o la mia domanda è, sì, arriveranno semplicemente ad affiancarsi, a stare sempre a braccetto? Spariranno, appunto. Sì, guarda, io purtroppo sparito. No, vabbè, io posso dire che all'inizio, quando ho sentito tutta la questione dei GoLive, dicevo, boh, vabbè, per me online è una cazzata. Io online. Scusa. Online e Gaikai. Cioè, in realtà dicevo, vabbè, a me pare una stronzata. Cioè, io voglio l'oggetto, lo voglio mettere, lo voglio caricare, entro al computer, roba del genere. Poi in realtà stronzata, a esposizione. In realtà poi alla fine l'ho provato pure io, anche se poi dopo lasciamo pure qui la parola a Stefano, perché lui l'ha voluto provare facendo, bullandosi di una linea, una fantomatica linea super avanzata in Svizzera. Credo quella, se bulla delle cose dell'altro. Sono fatte il cioccolato. Sono fatte il cioccolato svizzero. La pago io, cioè non è che degli altri. È comunque dell'altri. Vabbè, comunque al di là di questo l'ho provato pure io e ho detto, cioè, a me sicuramente non ha funzionato come a lui, perché stavo giocando a, non mi ricordo neanche com'era, Darksider 2, può essere, sì. E a un certo punto il cavallo, poi a un certo punto boom, se n'è andato da una parte il cavallo. Io dicevo, no, non devi andare da qua a parte, dritto, no. Lui voleva andare da qua a parte, quindi c'era qualcosa che chiaramente non andava, no? Ma quello era un problema di linea, perché lui online me lo disse all'inizio, tu non stai attaccato col cavo, stai attaccato in wifi, potrebbero esserci dei problemi, tipo il vicino che, cioè, mette le mani avanti, mette le mani avanti e dice, guarda che se il cavallo te va a sinistra, poi dopo non te devi lamentare, insomma, esatto, no? Se però togli lo stendino, secondo esatto, ma l'avevo levato, lo sai, quel giorno l'avevo prelevato, infatti c'avevo la linea a palla, cioè nel senso, tant'è che mi ha fatto giocare. Però io ho pensato che in effetti, secondo me, il futuro sarà questo. Non so neanche dirti se la sensazione che c'avevo prima dicendo purtroppo, in realtà invece secondo me non è neanche purtroppo. Da una parte ci leverà molto, da una parte, perché comunque ci leverà anche la libertà con la quale noi usufruiamo dei nostri prodotti, dei nostri servizi. Sarà tutto su licenza, come, esatto, film. Perfetto. Sapete che non possediamo i giochi di Steam. Perfetto. E però allo stesso tempo, dall'altra parte, comunque è una praticità, cioè nel senso, è comunque una comodità. E probabilmente, se quando le linee saranno abbastanza adeguate e veloci, sarà veramente anche più pratico giocare. Soprattutto non devi più perdere tempo a spolverare librerie. Bravo, con le scatole. È triste da una parte, però. C'è una proposta per il futuro su questo punto. Praticamente mi piacerebbe avere sì tutti i giochi online, quindi scaricabili pagandoli poi. Però mandami almeno la scatola. Esatto. Dammi la scatola, vedo le istruzioni, vuota, segreto, sì, vuota, però la scatola. Nei supermercati, nei costi specializzati, eccetera, soltanto le cazzate, massimo 10-15 euro, cioè una scatola che dentro ha tipo un bel libretto legato con la storia del videogioco, come l'hanno creato e perché, più un pupazzo, un action figure o altro, più delle cartoline, eccetera, che ti riporti quindi il feticcio. Non deve costare più di 15, massimo 20 euro, se è proprio una cosa importante. Ovviamente se ci stanno delle cose tipo cose radiocomandate o altro, quello è a parte. Però tu compri questo, poi il gioco lo scarichi a massimo 40 euro, quindi arrivi sempre a 60 prezzi di oggi. Ma penso che l'inverno poi... Beh, però sarebbe giusto, perché comunque se io vado sul PlayStation Network, ragazzi, i prezzi sono assurdi. Sì, cioè, sì. I prezzi sono più o meno gli stessi. Sono gli stessi. Di quello. No, a meno che diciamo, non sempre non approfitti di offerte. No, a parte le offerte che comunque sono ridicole rispetto a Steam, sì, certo, sono comunque ridicolo chiamarle offerte. Però, cioè, nel senso, c'ha ragione Luigi. Cioè, nel senso, io ti dico, ok, tu la parte scatolata me la devi levare. Esatto. Cioè, nel senso, tutto quel sovrapprezzo che comunque... Il fatto è che ancora non ci sta questa, purtroppo, a livello di publisher, non ci sta questa mentalità, perché, per esempio, è così pure su Xbox Live, è così anche sulle shop di Nintendo, pure là i giochi del 3DS... Però perché quelli sono sistemi chiusi, e i finali costano uguali a quelli scatolati. Nintendo non ha idea di quello che fa, esatto. Però ragazzi, noi non abbiamo mai analizzato a fondo, se non avrebbe fatto veramente una puntata... dedicata il PlayStation Network, cioè noi il PlayStation Network ci sta facendo fondamentalmente affittare i videogiochi che non sono di nostra proprietà, quindi non sono, poi ci permette di giocarli a quel prezzo. Sai quanta che sottoscrizione ha? Guarda che Sony ha avuto un'idea, come a dire, non vi do i contenuti, non diventate proprietari a meno che non lo comprate, però avete l'abbonamento, quindi molta gente dice cazzo posso giocare a tutto, ma titillare l'aspetto della pirateria, cioè quello che si fa dire ho tanto ma gioco fondamentalmente a poco, molti pirati diranno se a questo punto tanto non lo devo rivendere o altro, io adesso mi faccio l'abbonamento per un anno così c'ho tanto, posso giocare a molto, in realtà magari giocherà pochissimo a un cazzo, però avrà sottoscritto l'abbonamento. E un'idea di marketing subito là, se vogliamo, però al contempo appetitoso. Poi ne parlo magari a dovere quando arriviamo alla sezione dei giochi di Natale. C'è stato un errore, poi è stato l'errore di Microsoft che invece non ha dato niente oltre che, tra virgolette, niente oltre che... Adesso sta cominciando, cioè, hai fatto caso? Sì. Adesso se ti iscrivi al Microsoft Xbox Reward, ogni mese c'hai dei punti che ti accredita. C'è il 2% di quanto spendi mensilmente. Sì. Ma dovrebbero farlo, copiarlo proprio, dovrebbero... Ma in realtà poi è la stessa cosa che hanno fatto quelli di OnLive, perché anche lì ti dicono sì, ah, sì, per soli $8 c'è tutta la libreria, 270 sì, giochi, e chiaramente non ci giocherai mai. Sony certo sarà un grande trainatore Sony l'ha comprato, cosa ha comprato? Gaikai, sì. Ecco, quindi cioè, secondo me adesso aspettiamoci una rivoluzione nel sistema di marketing proprio da parte di Sony. Sì, assolutamente sì. Cioè, sarà la prima a dire faremo questo tipo di app e la imporrà su una piattaforma. Una cosa è sicura, non vedremo mai questo tipo di politiche su Nintendo. No, magari tra 15-20 anni, 30-40. Certo, con i giochi di oggi però, esatto. Dopo questa cosa con i giochi di oggi. Esatto. Nintendo no, potete comprare Mario su, a noleggiare Mario Nintendo. Allora, no, o te lo compri a €50 da qui a 40 anni, no, è impossibile, cioè il prezzo è quello. E comunque sono uscite almeno altre due idee per le prossime puntate di Dietrologia Videoludica, quindi se no segna a noi. Ok. Ma so, il pubblico non vede, ma è così. comunque, vabbè, Stefano, sto go live, online. Go Lion. Parlacene, di che cosa ti ha fatto provare questa linea svizzera di così tanta grande potenza. Mi fa sempre provare, solo quando sono collegato via cavo, mi fa sempre provare... delle fortissime emozioni, perché passi da quegli 800k al secondo ai 5 megabyte ed è sempre impressionante, io mi emoziono ogni volta. Però a parte questo, ti permette anche di fare cose belle, tipo provare un live come un membro dell'Unione Europea, diciamo così, come un membro anzi, quindi insomma un live. Io l'ho provato, come ho scritto anche nell'articolo, sia su netbook che su un PC degno di questo nome. Su netbook mi faceva storie per quanto riguardava le prestazioni del computer, giustamente, perché bisogna immaginare che nei netbook non insomma, in linea di massima, che non siano particolarmente potenti, non vengono letti neanche i filmati a 720p, ad esempio. O se lo fanno, cioè vengono letti ma hanno dei rallentamenti enormi. Quindi subire un flusso di streaming, subire tra virgolette, ricevere un flusso di streaming così elevato, chiaramente stressa il computer, che non riesce perfettamente a gestire le cose. È un esperimento molto interessante, perché comunque il gioco a cui giochi è il gioco a cui avresti comprato, insomma è identico al gioco originale se non per delle piccolissime modifiche all'interno del menu, come ad esempio quello che riguarda il cambio della risoluzione. Tu non puoi modificare quelle che sono le impostazioni video, è una specie di versione custom, però c'è da dire che in linea di massima sono tutte sparate in ultra. Quindi, ma è anche ovvio che sia così, però. No, no, giustamente loro hanno dei server potenti fatti apposta per queste cose qui, paghi, eccetera. Con una buona linea, appunto, non c'è lag, cioè proprio il movimento è 1-1. Io non ho riscontrato, se non appunto non utilizzando il cavo. Scusa, Stefano, se ti interrompo, sì, certo. Ma tu hai avuto per qualche gioco che hai giocato su. In questa maniera hai avuto possibilità magari di fare un confronto con lo stesso gioco magari se l'avevi anche su PC? Fisso, no, diciamo il locale, cioè per fare un benchmark e vedere effettivamente se più o meno il tempo di risposta ai comandi o la fluidità del gioco era più o meno la stessa? Su PC no, perché... O su console, no. Lo stesso gioco diciamo, tra console... Ah, tra console sì. Okay. Tra console sì, avevo provato Sleeping Dogs, mm-hmm. Sì, ci siamo lì, cioè almeno per la mia esperienza non cambia assolutamente niente, se non per il fatto che ho usato una tastiera invece di un pad, quindi chiaramente... Cioè, ma poi diciamolo, cioè in realtà la percezione, la sensazione è quella di vedere un video su YouTube, no? O su Vimeo, nel senso, forse su Vimeo, vista la qualità... Io ho un video HD. Esatto. Sì. Perché tu comunque ce l'hai e poi lo metti a full screen e quindi praticamente c'è il feedback è quello. Poi chiaramente in realtà la grande differenza e la cosa che ti sorprende è che tu interagisci realmente. Poi pure te c'eri quel giorno che l'abbiamo provato, insomma. Quindi cioè, a livello sperimentale è curioso. Sperimentale è sperimentale. Però io ho provato pure io. Ti ho provato pure te. Sì, va. Su che cosa l'hai provato? Con una Fastweb A5. No, su che device? Sul portale, su un Acer, ma forse non era neanche un Core 2-2, era un Core 2-2 processore. Tra l'altro questo abbatte pure i problemi hardware, no? Nel senso che... ci puoi giocare via tablet. Ma infatti adesso Nvidia sta facendo tutto cloud, sta cercando di spingere tutto per fare schede grafiche che lavorano su, cioè in cloud, quindi... Non per l'utente finale, insomma, cioè sui server. Ok. Cioè loro stanno lavorando per eventuali on live. Stanno creando schede grafiche. Più che altro ottimizzate per lo streaming video piuttosto che per l'elaborazione brutta dalla macchina. Sì. Tutte e due, sì. Va bene, quindi il tuo giudizio qual è? Allora, secondo me è un esperimento estremamente interessante perché appunto ti dà la possibilità di ipotizzare delle eventuali partnership o degli eventuali dispositivi estremamente piccoli, perché sarebbero solo dei ricevitori, esatto. con collegato un pad ad esempio, e una libreria online per la quale tu non devi neanche scaricare il gioco, devi semplicemente schiacciare play e giocare, quindi è una cosa molto diretta che potrebbe andare in bundle con le televisioni ad esempio. Infatti, e in più chissà che non sia anche una possibile strada per la fantomatica Steam Box, chissà. Sì, esatto. Però stavamo parlando ieri sera. Però io un difetto ce lo trovo sempre, mi spiace, sarà perché sono italiano, però quando se ne va la linea telefonica col vecchio metodo, c'avevi il supporto, non te ne frega niente, inserivi il disco o la cartuccia e potevi continuare a giocare. Questo è parzialmente è vero pure che però quando va via la linea telefonica però è paragonabile a quando andava via la luce. Sì, cioè io ho dovuto spiegare. Vabbè, poi se sei Fastweb te ne va via la luce, esatto. Non c'hai manco il telefono, tra l'altro. Ho dovuto spiegare a delle persone cos'è un blackout, quindi ok, cioè perché hanno detto perché dovrebbe mancare la luce in casa, ho detto beh può capitare. Vabbè, mo adesso la Svizzera è diventata il centro dell'universo, hai già rotto i coglioni con questa storia. Sulla cioccolata ci stiamo, però ricordiamoci che è un paese che non c'ha storia, non c'ha punti rilevanti nel contesto universale, è neutrale, non è nemica di nessuno, cioè poi dai, su, nemica di tutti, fanno entrare anche i sardi, cioè quindi immaginiamoci che tipo di pure Biggio, dai. No, beh, ma questo per dire, io l'ho detto per esperienza diretta, poi se andate in Francia probabilmente vi dicono la stessa cosa, in Germania non lo so io, però fatto sta che e per me era una cosa scontata che avvenissero dei blackout ogni tanto, e infatti mi metto i problemi su certe cose, certi dispositivi, se manca la luce, il gruppo di continuità, perché così non si porta l'hard disk. Beh, però considera che, ecco, uno dei, stiamo vedendo adesso su Google, uno dei più importanti produttori di gruppi di continuità è svizzero, quindi beh, ma lo esportano, quindi non è vero, comunque non lo stiamo vedendo. No, no, anche perché gli faceva di cioccolato, quindi, no? Eh sì, con i buchi, sarebbe una fonduta pure. Vabbè, comunque, comunque quelli che fanno, che hanno iniziato questo esperimento, sono o strafinanziati dietro da qualcuno, oppure sono dei pionieri che in realtà aprono la strada delle sperimentazioni, perché falliscono, perché poi in realtà su OnLive quanti giochi ci stanno? Adesso non lo so, non so cosa aperto. La quindicina, sì, beh, l'altro giorno, no, vabbè, anche di più. In generale o dici giochi moderni? Perché, no, in generale. No, diceva la libreria più o meno da quanti titoli è composta, ma magari due speech, 270. Esatto, dico. No, io dico online, io sono andato, non è c'è stata tutta questa gran roba, insomma. No, no, no, infatti, quello è un problema. Bisogna anche vedere se le compagnie non si ricomprano per poi chiuderli, sì, esatto. E riprendere col vecchio corso. Che poi mi pare che sono stati anche rifinanziati recentemente, no? OnLive hanno fatto un impiccio per poter essere comprati a poco, quindi si sono tipo licenziati per far abbassare il, cioè, sono andati in fallimento per far abbassare, si sono deprezzati, sì, però esatto. In realtà io pensavo, si pone anche un altro problema, metti caso, visto che comunque sono i publisher e lo studio di sviluppo dietro che dà la licenza a queste terze parti per poter mettere il tuo gioco nella libreria, sì. Un domani che revoca la licenza perché magari la software house o il publisher fallisce, sì. Tu non ci puoi più giocare, sì, perché quel gioco viene rimosso, esatto, come Steam, viene rimosso dalla libreria. Ok, va bene, ci sarebbe un articolo di Marco che dovrebbe uscire a giorni su un gioco che ha giocato, però a questo punto, velocemente aspettiamo che esce. Ah, sì, aspettate che esce. Penso che si può, però possiamo solo accennare che gioco è. Non ce la facciamo entro fine dell'anno, lo facciamo uscire. No, no, questa usciamo questa, poi buon Natale a tutti e poi ci vediamo a gennaio. No, beh, riguarda un bellissimo gioco, si chiama Lucius, riguarda il figlio del demonio. È veramente un gioco stupendo. Io penso, il piccolo Lucius. Il piccolo Lucius, sì. Lucius Battistis, il famoso demone. Una cosa incredibile. Io ve lo consiglio. Penso che sarà il primo gioco fascia rossa di Cerviti l'unico. Comunque, leggerò le tevere. Perché non ti è piaciuto? Bah, perché è molto indie, ma molto indie. Però è anche molto violento e anche molto violento, porno. Sì. No, magari erotico. Un po' porno. Beh, c'è anche qualche piccolo screenshot erotico che ho messo anche sull'articolo. Sì, dobbiamo bollinare. No, l'ho bollinato io, non ti preoccupare, ci ho messo del quadratino nero. Ah, ok. Quindi non si vede un granché. Cioè si vede, ma non si vede. È quel vero non vedo si che capisce, si è quel vero non vedo, ma si capisce. Ah, l'importante è che non violiamo, insomma, che non voliamo il pudore comune. Io ti ho detto poi cosa andrò a toccare come prossimo articolo. Ecco, tu poi ecco, raccontaci. No. Volete vai. Prima, magari no, dici solo il faccio il trailer. Tema. Faccio il trailer. Videogiochi e religione. Ecco qua. L'argomento proibito. Dopo sesso e rock and roll, droga e rock and roll. Quindi parliamo delle 25 religioni di Tamriel. Sì. 25... sesso, no, peggi sesso e rock and roll, che è ovviamente la puntata, insomma, che è uscita precedente a questa. Ok, allora facciamoci questo bel giretto dei giochetti di Natale, poi ci facciamo gli auguri, ci scambiamo virtualmente tanti bacetti e tanti regali, insomma, perché questa è la puntata natalizia, questo extra che abbiamo deciso di fare. Condensiamo, stringiamo, cioè, che cazzo stai c'hai ragione pure te, ma io che stavo pensiero non sapevo da chi iniziare. Esatto, non sapevo da chi dovevo iniziare, quindi nel non sapere, perché cercavo di allungare la pappa, quindi partiamo da Luigi, che è quello che magari dalla via, eh? Se c'è ancora Luigi, ci sei ancora? Ci sono. No, meno male. Allora, io da neodisoccupato, diciamo, non disoccupato da so sempre belle notizie, no? Sempre notizie, sì, dal giorno oggi, ho ripreso Skyrim, The Elder Scrolls 5 Skyrim, che presi al lancio e giocai veramente pochissimo, tipo cioè l'hai presa al volo? l'hanno lanciato una presa d'oro. No, però dovete lanciare anche i soldi. Ecco, ecco. Allora, sì, quindi sì, è stato un lancio equo, insomma. Sì, sì, sì, un double test. Niente, è una droga, ragazzi. È un gioco che mi porterò anche Natale e post Natale. Se lo dice Marrone, allora gli do. Basta, c'è okay, troppa roba da fare. C'è la voglia di. Detto da uno che non ama il fantasy, poi. Sì, ovviamente cosa succede? È successo che ho preso e giocherò questo, ma giocherò anche Halo 4, che ho terminato adesso la campagna in eroico, e ho giocato anche le Spartan Ops. Penso che sia un gioco meraviglioso dal punto di vista sia del concept che della realizzazione, molto coerente con quello che è la serie di Halo. E 343 Industries ha fatto un lavoro eccezionale. Lo giocherò perché lo devo alternare al fantasy, quindi metto fantascienza con Halo 4 e Skyrim. Fantasy. Luigi, quindi, scusami, sì, quanto ci hai visto di Metroid in Halo? Io tanto. Se devo condensare le sensazioni che mi ha sempre dato giocare Metroid, e in particolare l'ultimo Corruption che ho giocato, che quello diciamo in soggettiva, non ci ho visto forse alcuni rimandi quando alcune ambientazioni erano molto distopiche, le musiche erano con i synth, cioè, spingeva molto sul lato tipo anni 80, Bad, per sì, esempio. Sì, sì. Sì, sì. Però non ci ho visto quel tipo di sensazione. Penso che Metroid sia molto più misantropo di Halo. Halo è sempre comunque Cortana che ti parla. Hai una... Ah sì, sì, da quel punto di vista non sei mai solo. Non sei solo, sì. La solitudine è sempre caratterizzata da Metroid. Personalmente di stare in un ambiente ostile, alieno, scuro e meraviglioso di per sé. Però ti fa riflettere su te stesso, Metroid, sì, quando sei dentro te. Invece... Allora, non ci vedo questo aspetto qui, che quindi lo rende molto differente. Non lo saprei definire come okay, Halo rispetto Cortana, a me. Che stranamente è un'intelligenza artificiale con bel culo e belle dette, stranamente. Perché sì, è intelligente, no? Non è una stupida intelligenza. Mai una volta che facessero una persona normale, no? Non è ecco, quello che sai, vi dico una cosa. Ho letto una cosa che non avevo letto al tempo, la versione praticamente limitata di Halo Reach ha all'interno il diario di Kathryn Halsey, che è la creatrice delle ferramature Spartan. Questo diario, completamente tradotto in italiano, è meraviglioso perché spiega come sono state create praticamente attraverso gli appunti personali, quindi intimi, sia tecnici che appunto scritti a livello emozionali, questi Halo e le intelligenze artificiali. Le intelligenze artificiali, vi dico subito che possono scegliere, hanno questa libertà, la forma in cui si manifesteranno fuori. Quindi che so, ci cioè sono alcune nella saga di Halo che non sono tipo Cortana, c'è una che si chiama Deja, che è vestito tipo divinità greca con un libro diciamo in mano, generale giustizia. C'è un altro che è un aviatore ed è una voce maschile, perché sono determinate anche il sesso delle intelligenze artificiali. Cortana invece ha scelto la versione femminile, che è buona tra l'altro, perché è modellata sul DNA di Kathryn Halsey, cioè quella che ha sviluppato anche il progetto Spartan. E quindi Halsey, infatti la foto si apre, scusate, il diario si apre con un autoritratto che Kathryn Halsey si è fatta all'inizio del diario, ed è una bella fica. Quindi diciamo che non è che l'hanno messa i programmatori perché deve attirare. Tanto per, dici, ok. È perché la Halsey, cioè quella che ha creato la digitale, con il suo DNA, è veramente figa. E si è stupita del fatto che Cortana ha ricreato quella sua forma quando era giovane, perché Cortana poteva scegliere davvero qualsiasi tipo di forma, un uomo o donna. Evidentemente il DNA è talmente egocentrico, questo della Halsey, perché è un bel tipetto duro, tosto, non so chi di voi ha giocato Halo, uno scienziato davvero con le palle, questa signora, che quindi probabilmente ha replicato davvero se stessa anche a livello di intelligenza artificiale, quindi era autonoma. Sì, sì. Chiuso la parentesi, però sono chicche carine. E quindi giocherò Halo 4 perché voglio finire il leggendario da solo, quindi voglio farmi del male. E poi lo giochiamo assieme, Luigi, ti ricordo. Sì. Per molto anche. Giocherò Gravity Rush perché su PS Vita praticamente adesso ho usufruito dell'abbonamento per 3 mesi a 9,99 euro. È un regalo. Ah, c'hai la Vita? Fatto... C'hai Vita? C'è vita su Marte, sì. Sì, sì. Sì, sì, ho preso PlayStation Vita usata, l'ho preso un mesetto fa, e penso che il gioco di Gravity Rush, che l'ho cominciato, devo dire che è un gioco splendido, veramente una sensazione di controllo di libertà non è differente. E poi forse prenderò un gioco su le Wii U, che è Little Inferno, non so se l'avete conosciuto. Ah, sì, sì, sviluppatore, sì, sì, okay, sviluppatore di World of Go. Mi pare che già è già uscito su Steam, se, per PC, se ricordo bene. Sì, sì, è un vecchio gioco, sì, è uscito su Steam, così come è uscito, se non sbaglio, quell'altro gioco che è uscito poi al lancio per Wii U, Train 2. Train 2 è quello che, sì, che infatti sto giocando pure io su Wii U, è un'ottima conversione. Però Little Inferno mi sembra una di quelle produzioni che dici... cavolo, questo è il videogioco che non deve mancare mai. E poi penso che rigiocherò, giusto per chiudere il cerchio, poi finisco, un'altra volta mi rifarò Journey, quel gioco sviluppato da Santa Monica. Sa che a Natale ci giochiamo pure noi. Video tanto, The Game Company. Sì. Perché lo gioco? Perché è un gioco meraviglioso, ragazzi. Cioè, veramente. Ho giocato la demo e mi è piaciuta. No, e stranamente è piaciuto pure a Marco, che insomma di solito questi giochi piace tutto, mi piace il cazzo, no, ricordiamo che a Marco di solito tendenzialmente non gli piace un cazzo. Ha vinto il premio come miglior gioco indie nei VGA. Ma, sì, vabbè, attenzione, ha vinto proprio quel premio, sì, con questo considerando che non è indie perché è di Sony, sì, praticamente, però io è indie Sony, c'è la polemica, c'è la polemica. Facciamo polemica, che fa, no che polemica, che... no, vabbè, praticamente gli hanno affiancato i Santa Monica Studios, che poi sono quelli di, sì, di God of War, quindi c'è, sì, per fare una cosa così delicata, non lo so, però è uscito fuori, io purtroppo, sì, è paradosso, esatto, io guardano tutto, purtroppo non l'ho giocato. È come quando è bello, è bello, visivamente il gruppo metal ti fa la ballata, cioè, è un paradosso quel gioco, perché cioè, potrebbero piacere o non piacere giochi come quello, però l'atmosfera, il ritmo, sì, la cadenza proprio del gioco, cioè tutto lo sommato uno potrebbe dire, però dopo un po' duballe, e invece no, fino alla fine è pura poesia. Guarda, io non, cioè, mi ci sono avvicinato veramente con, cioè, con più totale ignoranza. Io, cioè, io non mi posso dimenticare, per me resterà tutto nel cuore la scena. Non ci spoilerà, non ci spoilerà. Non è la che sta spoilerando. Però diciamo tu spoiler. Il momento in cui la bambina muore. No. Mangiata le zucche. La bambina diventa un silone. O l'assassino è Scott Shelby. No, a parte scherzi, la attenzione, involontariamente Luigi se la ricorderà, la parte quella nei ghiacci dove devi per andare avanti scaldarti assieme all'altro perfetto estraneo che incontri, sì, in rete, è veramente toccante. Sì, sì, sì. Ve lo consiglio, ma per un motivo, perché se siamo giocatori scafati a questo punto, abbiamo provato diversi tipi di videogiochi, di gameplay, quindi abbiamo assimilato tante meccaniche con la nostra storia videoludica, che un tipo di gioco simile e in cui parlano le emozioni sembra quasi una summa di tutto il bello e sublime di tanti altri videogiochi, per cui vi dico, chi non ce l'ha, chi non l'ha ancora giocato, di reperirlo, di fare in modo comunque di giocarci, perché dura un paio d'orette comunque se vi ci mettete, non di più, lo finite così, però fate veramente un bel journey, un bel viaggio di quelli, vero, vero, concordo assolutamente al 100%. Da come Simone, se c'hai problemi una volta c'hai due ore, vieni e sì, giochi, sì, sì. No, ma lasci un po' mio padre che c'è la PlayStation 3. No, ma vabbè, lo spunto che mi viene è che da come ne parla, io non ci ho giocato, però da come ne parlate, da come almeno io ho vissuto, parlo di giochi per esempio come The Walking Dead, pare che un determinato tipo di gioco lo apprezza molto di più chi ha, come diceva Luigi, ha, sì, già assimilato delle cose da anni, perché da giocatori oramai viviamo esperienze troppo simili, no? Sì, in un modo o nell'altro, sì, sì, sì, sì, sì, e invece sì, questi sono momenti in cui ti spezza la similitudine di tutto questo mercato tripla A, e allo stesso tempo ti riporta anche un po' indietro al videogioco in senso tradizionale, con l'aggiunta di elementi estremamente poetici, narrativi, momenti in cui riscopri da zero il videogioco. Guarda, mi ha fatto impressione pure a me, perché io lo guardavo, dicevo, ne hanno fatto un gran parlare di sta cosa che per me deve essere una gran cagata, sì, cioè nel senso, proprio l'ho visto, non voglio far come quello che per far vedere che ne sa allora dice che Journey è bello, no? Però me lo so guardato e stavo lì con Marco, siamo giocati la demo E cazzo, è finita la demo. Porca puttana. Ma io mo lo compro, no? Nel senso, è quella. Poi non c'avevo soldi. Non me lo so comprare. Però me lo sono ripromesso che per Natale invece in realtà. Lo recuperi. Li avevi spesi per la scheda audio. Per il Sound Blaster Multimedia Kit. Blaster, esatto. Quello che devo dire, ragazzi, ma lo trovate sempre sulla PlayStation Store? Perché mi sembra che alcuni videogiochi però non sono più disponibili dopo un tempo. No, c'è. Ammazza, che. No, no, Journey non lo levano, sta ancora lì bello in evidenza. Cioè. Pure vinto. Ok, c'è bene. Ok, passiamo a Stefano. Che cosa? Aspetta, no, mi manca. Passiamo sempre a fare che cosa? Consigli per Natale. ma è bello che siamo tutti così attenti. No, abbiamo parlato per diverso tempo e non mi ricordavo più la questione originale. Troppa cioccolata. Cosa giocherai? Cosa giocherò? Penso di recuperare Light. E anche mi farò in successione i The Walking Dead. Bravo. Mi sparo gli altri capitoli. Che la bambina muore. Certo, peccato che la bambina muore. Peccato sarebbe... che so già il finale, esatto. La bambina muore e lì viene rapito dagli alieni. No, lui scende in campo. Però quando si sveglia, tutto sudato, ci stanno gente che sta somatizzando. Poi cambia un po' il genere. Sta somatizzando. Sono i zombie che somatizzano. Aggiungo anche forse Assassin's Creed 3. Non sono sicuro. Ma anche no, comunque. Non ne vale la pena. No. Sicuramente ne vale la pena. Ci vogliono 4 ore per cominciare a dire: oh, carino. 4 ore ci vogliono. Sarà che i primi due erano talmente troppo uguali uno all'altro. Tu hai giocato i due in 10 giorni praticamente. È vero. Perché ho finito il primo, ho iniziato a giocare subito il secondo. E quello probabilmente mi ha penalizzato perché. Perché ne avevamo un po' le palle piene, giustamente. Ne avevamo già le palle piene, sì. E poi troppi elementi platform, cioè nel senso c'erano troppi elementi che alla fine mi distraevano sul secondo, cioè andiamo alla ciccia, raccontami, mi è piaciuto molto, raccontami sta cazzo di storia invece di farmi perdere tempo a fare le cazzate che devi andare nella catacomba. Poi c'è na. Scusa, c'è na. Poi dopo non trovi i pezzi. Allora, dai. Cioè, non lo so. Il punto è che non si vedono platform da stile. Cosa ti posso dire? Stile Crash Bandicoot. Mitico! Mario 64. Mario, esatto. Cioè, insomma, vabbè, tolti Mario, però. Un platform Banjo o serio, diciamo, cioè un platform anche con un po' di trama dietro. Vabbè, per quanto stia prendendo una trama strada, è una parola grossa. Assassin's Creed. Mi risulta comunque interessante. Guarda, Assassin's Creed è una bellissima trama scritta da Giacobbo, scherziamo. Che Giacobbo notoriamente dice quando c'è qualsiasi esemplari, i mai alla fine del mondo, tant'è che dice, abbiamo scritto la sceneggiatura un cortometraggio e probabilmente non riusciremo mai a girare, che c'è proprio partecipa anche Giacobbo, quello è il problema. Il fulcro è proprio Giacobbo e i templari. Il DLC li sta facendo bossari, di questa sera. No, facciamo un audio dramma, sarebbe fantastico. A proposito di questo, comunque abbiamo sovrastato Stefano. È vero, vabbè, Stefano ha detto che giocherà Assassin's Creed e Daylight, no? No, Deadlight. Deadlight, scusa. Io se vuoi titoli oramai. Anche perché Deadlight e The Walking Dead sono abbastanza pure poi. Ma che fai? Sta pia per culo. Lui quello è pia per culo, so io, eh. E Golaio, non so cosa sta succedendo lì, ma. No, tranquillo, è che c'è stata una polemica. È tutto molto bene. Una polemica sterile, dai. Sì, ma ti riguarda cosa? No, riguarda il fatto che io sbaglio i titoli, insomma. No, ma cosa dici? No, sì, in effetti è una polemica sterile. Che non... Bravo. Stavo per chiudere il collegamento, quindi figurati. Non ha nessuna controprova sulla realtà, non c'è nessuna testimonianza audio. Disse colui che legge tutte le introduzioni di dietrologia videoludica. Esatto. Cioè, oggi andrà bene, non ha detto niente, dai. Cioè. Eppure io qualcosa di altro buttata lì per lì. Qualcosa. Vabbè, quindi. Comunque, quindi questi, penso proprio questi tre. Simone, tu invece. No, mi sono perso il terzo, scusa. No, è Assassin's Creed, Deadlight e Walking Dead. Ah, The Walking Dead, giusto, ok. Ok, Simone. Poi quando hai finito diccelo, perché... Te l'ho appena detto, Simone, tu? No, Simone Pizzi e poi cognome o Pizzi? Prima Pizzi e poi cognome, ha detto. Esatto. Prima io? Sì, prima Simone. Allora, io l'ho detto prima, quindi devo finire ancora The Walking Dead. Pure se so che finisce male, insomma, che la bambina muore, no? Quindi... però pazienza. Però lo finisco nei prossimi 2 o 3 giorni, anche perché... Oh, 2 o 3 giorni? Oh, non è che... lo so, è breve come gioco. Ma non c'ho te... No, vabbè, tutti gli episodi, sì. Però... cioè, beh, senso... sì, però ogni episodio è un oretto. So, ma io ci gioco una mezz'ora. Ma come stressa, capito? Mi stressa, capito? Quindi non riesco a viverlo tutto quanto insieme. Quello è un cavolo di gioco che va giocato anche perché episodi. Esatto. Come te lo davano, bravo. Non bravo. So come hanno fatto del tail, ma lo devi giocare così, se no ti perdi un po', secondo me. Ma io comunque gioco a episodio, cioè nel senso, ho finito un episodio, mi fermo lì. Cioè, finta che passa una settimana. No, sì, beh, sì. Ma comunque 2 o 3 giorni li faccio passare, perché comunque cioè, sì. Non c'ho tempo. La sera purtroppo tra podcast e cazzi e mazzi, stracci e sfazzi. E comunque poi The Journey, chiaramente, perché oramai l'ho visto, ma mi ha troppo ipnotizzato. Perché secondo me è proprio un'esperienza ipnotica quasi, per certi versi. Ed è sicuramente il gioco. Poi c'ho un sogno nel cassetto che però potrebbe costarmi il matrimonio. Mm-hmm. Perché questi sono giorni ovviamente di grandi spese e c'è qualcuno esatto. Comprarmi la trilogia di Mass Effect e rigiocarmelo finalmente in maniera senza salvare mai. No, ma tu no. Sai che se no, ci provi, cioè fotti la PlayStation 3 per sì, sempre. No, il problema è che se muori per sempre. Anche tu, muori tu mentre giochi. E muore uno Shepard e tutto, cioè non ci può essere proprio più assolutamente in tutto l'universo. No, è che la storia è che ovviamente io giocai il primo su Xbox e iniziai, anzi neanche iniziai a giocare il secondo perché l'Xbox si squagliò, e quindi quando giocai il secondo su PlayStation 3 in realtà lo iniziai perdendo tutti i dati che c'avevo, certo. Precedentemente. Comunque avresti perso lo stesso perché ah, no, se c'avevi Xbox, certo. Esatto. No, se c'avevo l'Xbox li giocavo su Xbox. E la stessa, e il terzo per esempio, e il terzo vabbè, ho avuto un problema similare perché comunque l'Xbox poi anche la PlayStation c'ha avuto un problema di cluster del file system e cazzi e pazzi, e quindi vabbè, e alla fine non ho mai vissuto l'esperienza continuativa del mio Shepard dall'inizio alla fine, e quindi il fatto che adesso sia uscita questa trilogia per PS3 diciamo mi piacerebbe comprarla e rivivermi bene tutta quanta c'era l'esperienza. Era serio? Lui. Sì, non è vero. Ci sono delle persone che si interrogano preoccupate su no, perché vabbè, quelli che vanno fa, quelli che la sanno, che fanno l'hardcore gamer o roba del genere, dicono no, ma Mass Effect è un gioco di merda. A me piace, no, c'è cioè, una bella storia. Ne parli sempre male. No, io parlo male di tante The BioWare, esatto. Però la storia di Mass Effect. Perfetto. Cioè, il primo in particolare, come abbiamo detto tante volte con Luigi, per me è veramente una, cioè è proprio l'amore per la fantascienza. Per in post produzione il suono dei dobloni d'oro che cadono. Sì, no, il rumore delle monete di Mario. Esatto. quindi è questo. E se dovessi pensare a qual è il gioco che, dato che ieri sera non l'ho detto in quei 3 minuti che sono apparso in Free Playing, il gioco che attendo con bava, diciamo così, del 2013 è The Last of Us. Purtroppo quello è, insomma. Quello varrà. Cognome è quello che sto giocando. No, che sto quello giocherà a Natale. Giocherà a Natale, quindi che sto giocando, cioè, non so, non penso non che Natale, compro altri. Vabbè, ok, quello che giocherà a Natale adesso smetto che fino al 23 smetto, fino al 24. Bravo. E giocherò Assassin's Creed 3, mm-hmm. Che è un gioco fondamentalmente rotto. Io ho detto già in rotto, quello è rotto, è un gioco pure rotto. Cioè, ha rotto ed è rotto. Ha rotto, però relativamente, perché come dicevamo anche con Bruno a parte, insomma, se lo giochi mentre fai altro, quindi ascolti, che ne so, telefilmanie oppure Outcast e ti metti di sottofondo il gioco, non il podcast ma il gioco, quindi, addirittura sì tu ascolti e nel frattempo vai a prenderti il tesoro, vai a cacciare la legge, cioè proprio da essere sti cazzi proprio, ma sì, ma Assassin's Creed c'è quello, e poi in più quando c'è il filmato ti vai a fare una sigaretta, fai un caffè pure ma sì, perché cioè io sono passato da un assassino altolocato che sta tipo al Globe Theater a Londra agli indiani d'America a Boston, sì, senza sapere come, praticamente. Cioè, ci stanno queste storie completamente, appunto, fatte da Giacobbo. È un miscuglio. Sì, hanno buttato un po' a cagiare. Tutto. Ci stanno gli alieni. Pensi che ci siano dei buchi, ma in realtà sono gli LC. Tu stai tranquillo, poi te lo tirano fuori. Ci stanno gli alieni, i Maya, a Svizzera. Ci stanno qualsiasi. Ma lo sai perché? Perché loro hanno fatto il primo, che secondo me il primo era veramente senza pretese. Da quel il punto primo di era vista. Una versione. Tant'è che la storia era abbozzata. Era una versione modificata di Prince of Persia. Doveva essere un Prince of Persia e poi c'è, ma sai che c'è? Famoci quest'altro gioco. Però l'idea geniale di quando tu ti svegli nell'Animus, secondo me lì era proprio qualcosa di innovativo. Poi dopo si perde e diventa un tourist game, come dicono. Insomma, dico, il gioco in sé poi a me l'hanno regalato, quindi io non è che me lo gioco. Accavaldonato. Esatto, non si guarda in... No! Ragazzi, ho visto una cosa fantastica, non lo so dove l'hai trovata, ma me la devi rimediare. Okay. Il salvaschermo di Giuseppe Saso è il Pong, diciamolo. Cioè, tra l'altro stavano 23 a 23 stavano. Quindi. E quindi volevo sapere come va a finire. Esatto. Perché l'hai levato? Io dico quel destro. Scusa, quello è salvaschermo. No. Praticamente, appunto, dicevo, insomma, è un gioco rotto. C'ha diversi bug, nel senso... Frame rate, sì, ma più che altro si incaglia, sbatte. Sì, sembra un cretino. Le guardie si appoggiano al nulla. C'è una foto e c'è la guardia che sta così appoggiata, non c'è niente. Cioè, pensi che non c'è nulla? No, c'è pure il bisogno. Anche quello, quindi stai tranquillo. Cioè, appoggiata a un granello di sabbia. Esatto. È vero che quando, non so se sei arrivato in questo punto, quando vai a occupare il calatetto. Spoiler, mettiamo sempre, metti poi la musichetta, Simo, che quando vai a occupare i forti degli inglesi, no? Col tuo esercito, anche dopo che sono stati liberati, ci sono tipo i popolani che picchiano la guardia inglese. No, quello non ci ho fatto. L'ho liberati, ma non è mai capitato. C'è sto bug. Anche perché non gliene può fregare meno da come abbiamo. Allora, ovviamente lui gioca ascoltando. Si porta al paradosso. Certo, ovviamente. È chiaro. Il fatto è che dopo 4 ore comincia a diventare interessante. Quando arrivi con Connor, che poi è il protagonista, questo indiano che ha voglia di vendetta, che comunque ha imparato l'inglese, che si sta inserendo in qualche maniera, in maniera sbagliata, però nella società sta inserendo ma male occidentale. Sì, Vigio, prendi gli appunti che tu stai cercando di inserirti. Stavo pensando nella società svizzera. Anche io mi inserirò male. Magari non con le lame gelate, non con le lame gelate, magari. No, però ricordiamo che lui è già stato fermato dalla polizia, Sì, esatto, scambiato per uno spacciatore il suo palo. E quindi insomma, in sostanza comincia a diventare interessante, però a me capita sempre meno di, appunto, appassionarmi a quello che è la storia. Diciamo che fino a che non ci sarà una svolta leggo i sottotitoli, mi basta capire il senso di quello che sta succedendo e via. Poi molte critiche sul fatto che non ha difficoltà, che non ha livello di difficoltà selezionabile, però secondo me questa volta gli obiettivi secondari di ogni missione sono abbastanza inerenti. Non inerenti, una sfida crea una sfida impegnativa, quindi mi sono trovato molte volte a ricaricare il punto precedente a checkpoint, diciamo, per poter rifare e non fallire. Le cose sono del tipo non perdere più del 30% energia, non toccare mai l'acqua se fai un pezzo magari sugli alberi, sui sassi, cioè lungo un fiume. Cioè fai la missione. Bella missione, No, vabbè, mo non è che io ti sto di una missione, devi salvare sono uno che queste. Sta cascando su. No, non sono su questo. Fanno parte delle condizioni che devi rispettare per avere il massimo della sincronia. Immagino. C'è pure negli altri. Sì, sì, c'è pure negli altri, però in questo rende effettivamente perché se tu lo fai senza, è un va da solo. È un filmato. Se più o meno. Se rispetti tutte le condizioni, invece diventa una sfida abbastanza interessante. Ovviamente è rotto anche lì perché il checkpoint per caricarlo, se tu hai fallito e nel frattempo parte la sezione dopo, tu devi ripartire da dalla sezione, sì, perché sono tipo macro sezioni, macro blocchi fatti da sezioni, no, blocchi, bravo, fatti da sezioni diverse. Bravo. No, bravo. Quindi tu devi iniziare dall'inizio del blocco, diciamo, della memoria, e quindi secondo me è rotto, perché se io voglio ricaricare, cioè, ho fallito, non mi puoi fa no, andare avanti. No, fallito, basta, quindi c'ha dei piccoli problemi, ma poi sono problemi secondo me, cioè se vende e fa quello che ha fatto a livello economico, evidentemente so io quello sbagliato. Vabbè, anche Rosso Ramazzotti vende un casino, fa musica di merda, quindi. Però la moglie soprattutto in Svizzera vende poi. Purtroppo sì, in effetti, comunque. Io quando andavo in Austria, sì, Ramazzotti, ricchi e poveri. Okay. Ma ragazzi, vabbè, in Germania è difficile, Simone. In Germania non sapete la passione che c'è per Fabio Concato in Germania. Una cosa... Chi Fabio Concato? Fabio Concato? Ah, quello là, quello con Masone. Sì, quello Domenica di Porto. Che Domenica bestiale. Esatto. Stiamo divagando troppo. Esatto. Vabbè, quindi poi Assassin's Creed. Poi gioco Forza Horizon. Che consiglio a tu, anche chi non gli piacciono i giochi di guida, perché è un'esplosione di colori, musica. Giochi di guida proprio no. Ma non lo so, io pure non ci gioco, però sono rimasto rapito da... Lo scopo? Esplosioni di colori. No, a casa mi guardo un filmato su YouTube. Sì, sono tutte gare. È un festival musicale che si fa in Colorado, veramente vero, si chiama Horizon, dove ci stanno pure le macchine. Da lì loro hanno fatto diverse gare che sono per categoria, per cilindrata, per... quindi tu prendi dalla 500 vecchia Abarth alla Subaru a Golf Corrado. Gran Turismo. Sì, però molto, molto arcade, non c'hai... Piccolo turismo. Sì, piccolo turismo, esatto. Un turismino. E poi c'è tutte queste sezioni, tipo da test drive al limite, dove tu giri per le vie della città, dello stato, del Colorado. E c'è anche la gente, quello è GTA. No, non ci stanno okay. Persone. Peccato, perché... Esatto. E no, sei proprio in free roaming, vai dove ti pare, allora vai a recuperare la macchina rotta, la macchina, che ne so, abbandonata... C'è un tesoro, fanno vedere una zona, ti chiamano il tesoro e tu vai, c'è sta la Bugatti del 72, c'è sta la BMW, ci sono diverse macchine, poi prendi, ti puoi restaurare. Ma quindi è un gioco divertente, non è una rottura dei coglioni. No, è dinamicissimo, è divertente. E poi c'è una cosa, poi io appassionato di musica, magari l'ho notata di più, che tutte le gare sono sincronizzate, tipo la partenza, il countdown prima della partenza, e quei 3 secondi, la canzone sotto... E va in sincronia, quindi quando parte la canzone parte anche la gara, per farti capire, c'è l'attacco della canzone e parte la gara, e ci sono 3 radio con musiche da un DJ, si chiama Rob Da Bank, un DJ inglese, lavora per la BBC, insomma una radio vera, pubblica, musicale, non l'ultimo dei coglioni, non la Rai, sì, esatto, e che ha fatto una selezione di 66 tracce tanto mica è vaga che vanno, esatto, che vanno dal rock all'indie, rock indie, nudisco, e poi tutta la parte elettronica che è più pesante, mi piace a me, insomma, e quindi anche una cura in quello maniacale. Poi ovviamente non è Gran Turismo, non è Forza Motorsport, anche se il motore è lo stesso, però non è Forza Motorsport, quindi comunque penso giocherò a quello. E poi ho comprato specchietto per la Lodole, fu il testamento di Sherlock Holmes, che consiglio, avventura grafica, bellissimo, strepitoso. Ho trovato il bundle con tipo tutte le avventure su Steam, quindi penso che farò, sì. Quanto? 8 euro. Mazza! Ce ne stavano 6, e quindi penso che comincerò a farmi quelle. Quelle sono belle, alcune poi più vanno avanti e più quindi progredisce anche tecnicamente, e più diventano sempre più bei giochi, infatti, insomma. Ma poi alcuni erano doppiati in italiano, alcuni no, però vabbè. Vabbè, mo vediamo come esce. Va bene, quindi giochi di corsa, chi è che gli piacciono, Luigi? No, a Fotone gli piacciono. Sì, a me non è che non mi piacciono, più che altro ho un modo di approccio che non è competitivo al gioco di corsa, forse perché non sono io amante della competizione in maniera normalmente sfegatato. Quindi quando gioco un gioco di corsa mi piace sì arrivare primo, per carità, quindi raggiungo l'obiettivo, però rilassarmi. Allora, questo guardati qualche video su YouTube, perché c'ha quel principio, cioè se arrivi terzo, secondo te comunque devi avere qualche soldo. Comunque di... Sì, per esempio ho giocato moltissimo Forza Motorsport 3, ma veramente sai come, giocandolo in modalità semplice, per godermi i paesaggi, godermi la velocità, godermi il passaggio dall'ombra di una galleria al fuori, che era la libertà, l'aria aperta, eccetera. E mi piacciono le sensazioni che mi dà la velocità della corsa. Basta prendere la macchina e andare. Horizon potrebbe fare il caso mio. Quando ci sono dei momenti dove costeggi tipo il fiume o il lago e c'è il tramonto che si riflette con sti alberi, cioè è bellissimo lo scenario. Allora mi vedo qualche filmato e puoi fare foto, puoi anche fermarti e farti mandate per in Sardegna. E invece Gioconnor? Giocondo non si sa, Giocondo praticamente penso che Giocondo in questo momento sta impegnato con Baldur's Gate, Relaunch Division. Mi è stato dato come perché dovrò deve fare la recensione per All Games Italia, appunto. Esatto. Net.net. E quindi dovrò. Che l'ho già cominciato, però non avevo rimosso questa cosa che una volta non ci sono. Diciamo, spiegamola questa cosa. Posso perculartiun pochetto, ti perculo un po', no? Però dopo c'è anche la mia spiegazione. Perché pure Marco fa tutto l'hardcore gamer, quello io gioco i giochi difficili, roba del genere. È andato, si è approcciato a Baldur's Gate. Dice: tanto qui c'è l'autosave. L'autosave. Ma quale Nanzi dice? Quello è un gioco. Ho finito il tutorial. Io sono riuscito a morire del tutorial. E questa è la cosa più bella di sto gioco. Io dopo il tutorial. Quando ti dice. Proprio le prime cose che ti fa fare il tutorial, ti insegna a lanciare un incantesimo. Sì. Ho fatto lanciare al mago l'incantesimo sul mio personaggio che è morto dissanguato. Ah, che bello. E mi ha detto: guarda, è finito il gioco, devi ricaricare e ricominciare. C'era a capo il tutorial. No, ricordiamolo che io, cioè, perché Baldur's Gate l'ho giocato all'anni che erano e quando era ancora un videogiocatore serio ed erano, cioè, i giochi da allora erano difficili, ma questo è veramente un gioco di ruolo vecchia scuola, cioè, sì. C'ha pure tutte le regole di D&D, no? D&D, le regole di seconda edizione, quindi quelle proprio Non li fa incazzare, no. Quindi dovrò fare questo qui, poi dopo penso che proverò a finire tante cose del tipo Limbo, del tipo pure Limbo era carino, del tipo Hitman, che sono fermo alla prima missione, però non sono riuscito ad andare avanti perché non mi sono messo lì a indagare più di tanto. Poi Assassin's Creed 3 forse lo comincerò, ma non l'ho detto. Poi Star Wars Old Republic devo fare un po' di missioni. Scusa, ma iniziato a giocare adesso online, sta morendo praticamente. Proprio perché è gratis, sta morendo e me lo sfrutto finché infatti cioè lui non lo vuole, cioè lui voleva fare l'esperienza single player del gioco, cioè a lui del multiplayer non gli un cazzo. Anche se devo dire che comunque alcune missioni fatte con il primo che capita dice: oh, ma aiutami qui, e ti danno una mano, comunque in qualche modo è simpatico, carino, simpatico. Carino. No, per carità, pensavo che fosse ancora a pagamento, eccetera, quindi no. È sempre forma freemium, cioè praticamente tu arrivi fino al livello 50 e basta, però sti cazzi, quindi io devo finire il gioco, non mi frega niente, poi lo abbandonerò subito dopo. Quindi vabbè. Poi ci stanno i DLC di Skyrim, poi ci stanno i DLC di Mass Effect 3. Sì, vabbè, basta. Quindi. Cioè, non puoi uscire i DLC di un gioco che ha concluso la sua storia, cioè, non va bene, è una cosa proprio. Ma così cambi tutto. Cambia cazzo. Io passerei a Zaso a sto punto. Grazie. Okay. Vabbè, allora io ho finito di recente, anzi due giorni fa, Zombie U. E devo dire che devo dire che ormai ne ho le palle piene di zombie, quindi voglio un gioco che finalmente, con tutto che mi è piaciuto, e sono riuscito anche a morire nel finale, però il gioco comunque termina. Ho bisogno ora di rilassarmi, di tornare bambino, eccetera. E sempre grazie al mitico Nintendo Wii U mi farò una full immersion in New Super Mario Bros. U, dove non me ne frega più niente se Peach è stata rapita nuovamente per l'ennesima volta. Tanto che cazzo giochi a fare i giochi di Mario per la storia? Fondamentalmente devi sempre fare 4 zombie e arrivare fino a zombie, no zombie, e arrivare fino alla fine del livello raccogliendo tutte le monete. Non si sa mai qualcosa. Sì. E devo dire che è questo che mi sta prendendo. E poi volevo ritornare, visto anche il DLC che è uscito di recente, volevo ritornare a farmi una partita, questa volta nella modalità classica hardcore, a XCOM Enemyac Now. Quindi, quindi non solo classico che già è difficile, ma anche hardcore, quella che non puoi. Sito Slingshot. Esatto, mi sono scaricato il DLC pure Slingshot, quindi con l'occasione c'ho pure 4 missioni nuove da giocare. E quindi voglio vedere se. Ho provato a rigiocare la classica. Con i salvaggi, però. Ovviamente prendevo 3-4 persone a testa. Sì. Ogni missione è una strage. Una strage di cristiani. Però ci tengo, anche là ho fatto alla mia prima partita. Il comandante Shepard che è diventato pure il primo psionico. Poi purtroppo vabbè, non sì. Quindi devo dire che insomma tornerò in questo fantastico remake di uno dei più grandi strategici della storia del videogioco. Basta. Io vorrei fare un'altra cosa che è fuori scaletta, invece quello è, visto che è Natale, perché questa puntata esce il 25. No, lo so, esce sotto Natale. Esce sotto Natale. Però se esce sul 25 sarebbe figo. Però e comunque esce entro la fine dell'anno. Vogliamo dire qual è il gioco dell'anno per noi? Cioè quello che c'ha. O il gioco o i due giochi. Dai, andiamo a uno, massimo due. Luigi. Non morire, Luigi, però non in trasmissione. Ma amo il videogioco a tal punto che commettere un delitto verso gli altri che eventualmente vado ad escludere, quindi non so dire. Il gioco dell'anno, facciamo così: il gioco dell'anno, allora facciamo così: faccio questa premessa. Per me, il gioco dell'anno è il gioco che ho più giocato. Ok. Quindi non è il gioco fondamentalmente che mi è piaciuto di più, non necessariamente. Vediamo un po': il gioco dell'anno. Vabbè, sto giocando Skyrim, quindi è innegabile che la posso mettere al primo posto. Ho giocato poco quest'anno, perché fino a quando lavoravo, fino a un mese fa, avevo la maggior parte del tempo impegnato al lavoro. Direi forse, dai, il gioco dell'anno intendete che è uscito quest'anno o che ho giocato? Che hai giocato quest'anno? Allora, quello che ti è piaciuto di più quest'anno, dai. Dico Skyrim. Ma facciamo così, dai, metto anche Mass Effect 3. Tanto che non facci mancare niente. Io che ho giocato anche quello un bel po', non lo posso negare. Sì, metto Skyrim e Mass Effect 3. Marco? Io guarda, Skyrim pure io, perché poi alla fine l'ho giocato tantissimo. E poi The Walking Dead, perché comunque è stata la, diciamo, la rivelazione di fine anno, perché poi è un gioco che è partito come una mezza sola, perché poi il primo episodio era un po' così e così, ma poi è cresciuto piano piano, insomma. Piano piano è cresciuto, insomma. Ha lasciato il segno. Stefano? Io sicuramente Far Cry 3 e Deus Ex Human Revolution. E Peppe, scusa, ma Deus Ex, però sì, è quello che hai giocato di più, perché dell'anno scorso, mi sembra. Sì, in realtà è già uscito due stati fa, quindi. Ah, due stati fa. Ma davvero? Sì. Oddio santo. No, sì. Ero convinto che. Vabbè, non ti preoccupare, in ogni caso. Il tempo passa. Esatto. Esatto. Due stati fa è un anno e mezzo in realtà. Sì. Vabbè, dai. Ok. Va bene, mi avete. Ok. Va bene, ok, prego. No, io me ne esco a questo punto con due titoli che in realtà ne abbiamo già parlato abbondantemente. Innanzitutto Walking Dead, perché ovviamente le emozioni che ho vissuto ben pochi altri giochi. E poi per buttarmi su un titolo mainstream, comunque a me è piaciuto, anche se il protagonista, come abbiamo detto all'inizio dell'episodio, è stato muto, pure Dishonored. Comunque è stato anche solo perché un IP nuova hanno voluto usare, e comunque mi è piaciuto immergermi nella città di Dumbledore. Per me insomma è stato un'autentica rivelazione. Ok, Simone? Allora, io direi The Walking Dead anch'io, però diciamo che è una menzione speciale. Infatti, menzione speciale. Copiare qua, Super Mario 3D Land è di quest'anno? No, dell'anno scorso. È quello che abbiamo giocato di più, No, quello di quest'anno è il mio Super Mario Bros. No, per 3DS. No, perché una menzione per 3DS sicuramente. Allora, Sherlock Holmes quest'anno sicuramente, 3DS c'è, però ho giocato Sor Layton. Infatti Sor Layton, stavo per dire, stavo per dire Layton, ma direi, perché io ci ho giocato quest'anno Braid, così un evergreen del, è stato del, troppo, del panorama, è stata un'esplosione di testa, perché io l'ho conosciuto tardi e quindi, quindi sì. Invece proprio veloce veloce il flop, il vostro flop dell'anno. Beh, magari se muove di pure a me qual è stato. Ah, vero. Esatto. No, ma tanto così, tanto The Walking Dead, no, magari là. No, Mass Effect. No, perché chi mi conosce sa che io vengo da una traduzione, da una tradizione di avventure, anche tradizione di avventure grafiche, e quindi chiaramente per me The Walking Dead, perché non soltanto perché è una simile avventura e quindi mi riporta a quelli che sono stati poi i giochi che mi sono sempre piaciuti, ma perché sono un appassionato di narrativa nel videogioco e perché penso che nel tipo di narrativa siano stati forse la software house più coraggiosa da questo punto di vista quest'anno, perché hanno raccontato senza troppi peli sulla lingua, senza... Si sono fatti vedere dopo Jurassic Park, per quello sono stati... Che tra l'altro a me non dispiace, cioè secondo me ci sarebbe un bel dibattito da aprire su Jurassic Park, perché chiaramente c'ha tutta una serie di limiti, ma c'aveva anche alcuni aspetti dal punto di vista sperimentale che secondo me sono stati importanti, cioè senza Jurassic Park probabilmente non ci sarebbe stato tutto l'aspetto positivo che ritroviamo oggi dentro The Walking Dead, insomma. Allora, il flop dell'anno invece, a questo punto il flop dell'anno sinceramente non mi viene in mente niente de... Il mio flop dell'anno, mio personale, nel senso non che sia un flop, è stato proprio Halo 4. Attenzione, quindi si è fatto nemici. Lo so, però ma a me personalmente, però tu dici grazie al cavolo, io non ho mai giocato, ho giocato il 4 sull'onda dell'entusiasmo di Retro Studios, dell'eco di Retro Studios che stava nel team, e quindi per me è stato quello, ovviamente ho sbagliato nell'approccio, quindi non è che do colpa al gioco, però per me è stato il momento più un po' così, più basso della tua vita. No. Madonna, no, io ho giocato un'ora del primo con la prima Xbox, poi dopo non l'ho più toccato e non mi ha mai proprio preso, perché l'ho trovato sempre, è vero, io non ci ho mai avuto proprio empatia proprio. Io l'ho trovato proprio sempre anonimo, l'ho trovato sempre, poi ovviamente io Timo per esempio l'ho finito, ma non mi ricordo così. Zero, completamente rimosso. Ma sai, zero, film zero. Generico di alieni, cioè proprio senza titolo, proprio quella cosa da film alieno di film alieno generico di sparare. Di sparare. Di sparare. Sì, esatto, non c'ha proprio nessun tipo. Che ancora più brutto era se era di menare. Esatto. Allora, di menare è ancora più. No, ma ci sta tutto, nel senso, questo è proprio l'errore, secondo me, che ha pianificato in maniera piuttosto sballata Microsoft quando fece uscire il primo Halo, perché il primo Halo è stato creato sulla base di un romanzo che era stato scritto più o meno contemporaneamente o poco prima, che poi è stato tradotto da noi 7 anni dopo l'uscita del romanzo in America, che si chiama La caduta di Reach, che è un bel romanzetto, diciamo, sulla nascita di Sparta, sui bambini prelevati, tutta la tematica. Quando giochi già il primo Halo, vieni buttato all'interno di una storia che in realtà è il finale del romanzo stesso. Ah, ecco. Succede quindi praticamente che Halo è sempre stato così, un grosso carrozzone fatto di pezzi ricuciti di una realtà narrativa che su cui ti chiede di fare da funambolo tra il romanzo, a questa volta, a questo punto anche i fumetti, l'universo del gioco stesso che spiega tutte le fazioni e i personaggi, e in questo caso bisogna vedere magari il film o comprare l'enciclopedia, e poi il gioco stesso. Il gioco stesso che è una parte molte volte narrativa importante di che fa da anello, scusate anche il gioco di parole, anello, Halo, eccetera, a tutte queste realtà prodotte in maniera collaterale, e quindi non ci capisci nulla. È chiaro che chi arriva ad Halo è come quando tu lo butti in Metal Gear Solid 4 all'improvviso. Molta gente ha comprato PS3, ha comprato Metal Gear Solid 4, chissà cosa credeva senza aver giocato a quelli prima. Sì, sì, infatti. Non ci ho capito un cavolo, ma è giusto che sia così. Però, scusa, però c'è una, scusa, chiudo. C'è una cosa, però, lo guardo, che non è, cioè, il flop, appunto, è un flop mio, perché invece è un gioco di puro gameplay che secondo me è paragonabile a un gioco Nintendo. È proprio solido, pesante, questo Halo 4. Sì, è, sì, dà proprio soddisfazione caricare l'arma, vedere che lui mette dentro il colpo e sparare, vedere, cioè, da quel punto di vista è strepitoso, nel senso che non me lo aspettavo proprio. C'è il feedback che ti dà. È una cosa, sai, i giochi Nintendo sono perfetti. Questo c'ha quasi tutto, all'80% ricalca, non so se Luigi la pensa come me, ma all'80% ricalca proprio il puro gameplay, quello che poi è la forza di Nintendo. Sì, sì, sì. A me quello che piace molto di Halo è, non so se hai fatto questo paragone, per quanto hai giocato, l'intelligenza artificiale. Se tu vedi i nemici e metti l'artificio artificiale da eroico a leggendario, hanno una capacità di nascondersi, di trovare le coperture, di aggirarti, sorprenderti, che non trovi in altri giochi. Veramente c'è un'intelligenza fantastica. Sì, così è coreografico anche, cioè non è mai che tu non vedi niente. Ma là perché è un flop, scusa? Per me è un flop perché io, per quanto mi so disaffezzi, cioè l'ho finito, non mi, la storia non mi è rimasta in testa. Ok, ok. La grafica sì, è il massimo che si può ottenere. Non hai empatizzato col gioco? No, no, capisci, l'ho dato via subito. L'ho dato via subito. Però no, multiplayer l'avevi giocato, o quantomeno l'avevi giocato con un amico? Ho giocato con Peppe un'oretta, sì, mi sono divertito, però alla fine è un chiacchierare su Skype mentre spari, insomma. Però appunto è come vivi, io online non ho mai vissuto troppo quello competitivo, specialmente questo, neanche io e Marco, infatti. Quello, cioè, quindi proprio è un modo di approccio diverso, era, quindi nel nostro caso era cooperativo. Sì, nel nostro caso era comunque è una comunità, come prima cosa, questo non dimentichiamolo, quindi ha le sue regole, le sue i suoi fanboy e anche molti fanatici legati veramente a quell'universo. Quindi quando tu vedi molta gente che gioca, che l'ha acquistato e che lo alimenta, è gente che c'ha, che ha una comunità di Elors, tipo quella di Call of Duty. Proprio per dirti, questa qua ancora più specifica, è veramente, sta sempre appiccicata a giocare a Halo. Io, se mi viene questi amici, se mi collego, la maggior parte sta giocando a Halo adesso. Sì, ma infatti, infatti io appunto ho detto la mia, cioè ho specificato il fatto che flop è per me, perché non ci ho avuto proprio, non è scattata la scintilla, certo, ecco, però non si può dire che non, sì, è, sì, sì, è comprensibilissimo. Ok. Ah, io invece ovviamente Lucius. Veramente, cioè, scusa, ne hai parlato tanto bene, ma alla fine è una zozzeria. È una zozzeria, ma veramente una cagata. Cioè, però, è bella l'idea, però. Bella l'idea, perché tutto sommato, sai che ci, cioè, riprende molto dalla maledizione di Damien, nel del presagio. La trilogia del presagio. Sì, però poi alla fine, cioè, che emozioni ti dà interpretare quello che devi distruggere il mondo da grande, cioè che devi ammazzare gente così, tanto perché arriva il demonio e dice: guarda, devi ammazzare tutti quanti, perché così a sbafo, poi sbafo, diventi forte, cioè, non fa paura, cioè, non è un film, non è horror, non è un gioco horror, non è un gioco psicologico, cioè. È un vorrei ma non posso, vorrei ma non, ma chi me lo fa fare? E poi basta quello. Poi stavo pensando se c'era qualche altro gioco che in qualche modo mi aveva lasciato deluso, un po' tanti, ad esempio, non so, deluso no, non tanto, perché per esempio l'ultimo Hitman è bello, però non mi ha ancora catturato più di tanto. Quindi lì sono, ma quindi non puoi dire che la giovenza, no, perché infatti ho giocato anche poco, quindi infatti non mi voglio buttare un po' troppo nelle considerazioni. Beh, io a malincuore comunque devo dire che una delusione è stata ovviamente Mass Effect 3. Comunque, attenzione, beh, cioè, sì, lo dice con la pippa, cioè, avrei preferito un finale un pelino migliore, anche magari mettere direttamente lo stesso finale poi esteso che hanno rilasciato dopo, anziché, se vuoi, uscire il mod dell'happy ending. Sì. Il mod happy ending, bellissimo. E poi un gioco invece che mi ha veramente deluso, ho pensato di avere buttato la ventina di ore che ci ho speso, è un gioco che è passato in sordina, infatti non trovi neanche molte recensioni in rete, con tutto che si tratta di un gioco che si basa su un franchise, ed è Game of Thrones. non so se l'avete, se l'avete giocato. No, no, non abbiamo visto i filmati, eravamo visto che è brutto. Esatto, era di più. È un RPG occidentale pessimo, che probabilmente pure anche come sistema di combattimento copia molto dal primo Dragon Age Origins. È veramente, è fatto appositamente per lucrare sulla, sul brand, sul brand, esatto, in particolare sulla serie che ormai, ma rispetto narrativamente, rispetto alla storia del telefilm, della... Allora è molto fedele, nel senso che comunque si tratta di vicende che arrivano proprio a ridosso della fine della prima stagione, per intenderci, seguendo anche casate minori. C'è qualche cameo, tipo la regina Cersei o il ragno, l'eunuco per intenderci, Tessitore, però alla fin fine è puro fanservice. Poi la storia in sé comunque sì, ha le tematiche di dei giochi di potere, degli intrighi, di figli illegittimi, però non ti lascia niente. Beautiful, un po' più. Sì, sì, ma non ti lascia, e poi comunque è noioso, cioè, specialmente un gioco di ruolo, diciamo, cioè, dove non solo la trama fatica a decollare, ma anche giocare i combattimenti, che sono più del 50% del gioco, e quindi quasi tutto il fulcro del gameplay, veramente dove ti rompi pure a fare grinding ammazzando i nemici, veramente non merita. Sì. È la classica licenza sprecata. Ok, Luigi. Guarda, siccome sono andato abbastanza sul sicuro sui miei acquisti, che non sono stati molti quest'anno, non c'era un flop preciso su un gioco. Però il flop del mondo dei videogiochi, direi la PlayStation Vita. Sì. Non è stata supportata e non è stata fatta una buona campagna promozionale, perché per quanto la metti nella Champions League non è il nome che conta, è quello che poi fai vedere alla gente, la fai toccare con mano. Ho visto pochissima possibilità di interazione di PlayStation Vita, almeno nella mia città, nei supermercati o altro, e l'ho vista la prima volta perché l'ho dovuta far aprire davanti a un GameStop una PlayStation Vita usata per vedere come era fatta per accenderla. E vabbè, questo comunque è un problema, questo della mia città, vi dico, nella mia zona. E l'ho vista proprio arrancare, una potenzialità bellissima questa console, bellissima, i colori, lo schermo OLED, c'è qualcosa veramente di fantastico, di superiore, eppure ha una supporto hardware molto tentennante. Sono uscite quelle 4, forse 3-4 perle in tutto, che in mesi di console sul mercato, che ha subito un forte passaggio di prezzo, fanno capire proprio quanto hanno sbagliato totalmente il piano previsionale di uscite e di supporto. Il lavoro che faccio però è, siccome una macchina bellissima, veramente una macchina, un gioiellino da avere a livello di impatto visivo, ma anche molto user friendly, anche l'interfaccia grafica, come le impostazioni, i servizi che dà da Skype, che è ottimo, cioè ha una serie di applicazioni ad hoc. Il lavoro per il futuro è quello che possa diventare veramente la console portatile del 2013, facendo veramente rinascere il brand Sony in un modo inaspettato. A questo punto prende suoni nel mercato videoludico. I giapponesi secondo me c'hanno, cioè Sony secondo me è sempre stata, a livello di prodotti sfornati nelle tre generazioni, secondo me è stata sempre, non dico la migliore, ma comunque è stata quella che in qualche maniera ha trasformato anche il videogioco domestico, no? Sì, perché sì, c'era, sì, un periodo in cui PlayStation era sinonimo di console a casa, no? E dall'altra parte secondo me subiscono un po' un problema, e c'hanno proprio i giapponesi in generale, che è quello delle politiche commerciali, che spesso e volentieri per noi sono assolutamente incomprensibili. Ma guarda che problema, ma pure Nintendo c'ha avuto il problema di PS Vita, invece è proprio di aver tolto tutta la parte giapponese, che era quella che portava avanti, secondo me, portava avanti PSP, e andare avanti con i brand famosi in Occidente convertiti. Non parlo dei giochi, io parlo proprio di politiche, cioè i giapponesi hanno un problema di base, che tirano fuori magari delle console eccezionali e poi le limitano dal punto di vista commerciale per alcune azioni di conservatorismo puro, cioè, di chiusura pura, cioè, anche Nintendo come il GameCube, no? Oppure che ne so, tiravano fuori delle console e poi ecco come sta cosa dei supporti proprietari, no? Che poi alla fine comunque sono cose che aggiungono costi e che limitano alla fine in un modo o nell'altro l'appeal della console, soprattutto a livello occidentale. Poi non so in Giappone quanto possa, però io ho sempre notato che i giapponesi riescono in generale a suicidarsi con le loro stesse mani, no? Soprattutto Sony nel genere. Ma arriva di un altro. Succedersi con le mani di un altro è sempre difficile. No, fanno seppuku. Questo Arachini. Questo bisogna. È tutto relativo perché ci stanno dei caffè bevuti da tanta gente che dimostrerebbero che il contrario, c'è gente che si suicida per mani di altri. Insomma. È vero. Suicidami, ti prego. No, ti fanno suicidio quando vuoi. Vabbè, comunque detto questo, Peppe, era Luigi, hai ragione. Quindi questo è il tuo flop, Luigi, comunque fondamentalmente. Sì, il flop però è anche un augurio. Ah sì, ecco, sì, ok. Stefano. Ma io ci metto in mezzo, E.T. per Atari 2006. Grande. Del secolo, del decennio. Ok, bene, a parte questo. Eppure, essendo stato un flop, cioè alla fine, a oggi, a 40 anni, a 30 anni di distanza, cioè nel senso, siamo a ricordare che quella cosa lo ha reso leggenda. Ti ricordi il troppo brutto e il troppo bello? Sì, esatto. Cioè, nel senso, io comunque ce l'ho ancora, E.T. Ma uno di quelli che sta in deserto, cioè. Fatti un remake. La distribuzione di Desert Version. La Desert Version Deluxe. The Sandy Version. Cioè, tu quando l'apri esce la sabbia e poi metti dentro. Esatto, quella col sabbione. Comunque, no, allora io purtroppo dico, per quanto mi riguarda, no, come flop in generale, Dishonored. Sarò. Sì, allora. Sei rimasto deluso? Sei rimasto deluso? Sì, allora non l'ho giocato tantissimo, ma da quel poco a cui ho giocato non mi ha preso tanto da dire sì, ci dedico tutto il tempo da cui questo gioco meriterebbe, perché come dire, una parte di me si rende conto che è un bel gioco, ben fatto, originale per tutta una serie di cose. Un'altra parte però proprio non so perché non riesce a farselo piacere, magari mandala a fanculo. No, magari è tanto semplice. Questo andare a riprendere da a distanza di un po' di tempo, ecco. No, più che altro a me incuriosisce, Stefano, il discorso che però ti è piaciuto Deus Ex Human Revolution, che fondamentalmente se lo giochi pure quello in stealth l'approccio è più o meno simile. Ma io non lo giocavo in stealth. Ah, andavi proprio ad armi spianate. Sì, io sono andato gonfio come un campione di Mister Olimpia e ho spaccato i culi praticamente. Sì, l'ho fatto quando l'ho rigiocato, ho fatto. Ma perché sei un tamarro tu comunque? Sei tamarro e quindi anche quando tu giochi. Sei quello che quando vai in multiplayer bestemmia e dice cose cattive. Infatti come hanno fatto venire un ictus. No, è stato aggredito alle spalle. Ok, Deus Ex. E con quel genere che poi ho giocato a Skyrim e anche Skyrim ho avuto lo stesso problema di Dishonored, quindi forse perché non sei pronto, tu lo giochi male, tu giochi Dishonored spaccando tutto e giochi Skyrim in stealth perché tu l'hai fatto. Di la verità, dai. Effettivamente in Skyrim, no, sai che ora che mi ci fai pensare, effettivamente in Skyrim ho fatto tutte le cose per nascondersi nell'ombra, l'arciere, e invece in Deus Ex andavo tipo a carro armato, mi mettevo in mezzo, spaccavo la gente. No, ma complimenti, perché tu entri proprio nello spirito dei giochi, insomma. No, però ma sono curioso di sapere come gioca Hitman. Aspetta, no, però questa domanda io la devo fare a Stefano. Sì. Ma in Skyrim, visto che ci hai giocato, sei riuscito a farti un personaggio di bassa statura da chiamare? Ah, esatto. Boromir. Ce l'hai Sborro? C'è Sborromir anche su Skyrim. Brutto, vai con la barba, sporco, ce l'hai fatta. a crearlo. No, sai che adesso non mi fido in mezzo. Però, no, come razza è... Non c'è il nano, però puoi decidere tipo l'altezza. Non ricordo dove l'ho fatto un nano. Ricordo che aveva comunque qualche menomazione fisica. Okay. Tipo l'occhio guercio. Io c'avevo l'elfo con l'occhio guercio, per esempio. Sì, veramente Marco fa dei personaggi che la bruttura è la vita. Ma gli elfi sono perfetti. L'elfo con l'occhio guercio. È riuscito a farlo brutto. No, è riuscito a fare un elfo melato, mezzo squarciato, con occhio giallo e un occhio completamente bianco. Cioè, una cosa abominevole. Se riesco a capire come cazzo funziona questa cosa, non lo posso dire. Vabbè, comunque. Io gioco bene il gioco successivo rispetto a quello a cui sto giocando in quel momento. Cioè, gioco a Skyrim Stealth. E invece avrei dovuto giocare a Dishonored Stealth. Invece tendevo a... Ma come cazzo parli, porco cane? Sei pure svizzero. Cosa sto dicendo? No, niente. No, dici Stealth. Come lo chiamate voi? Stealth. Ah, vedo che anche voi... Guarda che noi siamo in tre, quindi qualcuno c'ha ragione. Noi abbiamo comunque più ragione di te. Certo, qualcuno ci ha azzeccato di noi. Non lo so, allora dirò self. Bravo. Self. Babbo, ragazzi, io direi a questo punto così basta. Sono due commenti importanti. Chiudiamo, ci sono due commenti importanti. C'è un commento importante su dietrologia videoludica. Che è assolutamente importante, di Gaetano Menna. Forse non ci vedi, aspetta. No, ci vedo, dai, c'ho delle informazioni. Non c'ho occhio guercio. Gaetano Menna scrive: siete molto simpatici e molto interessante ascoltarvi, quindi grazie tante. Ti ringraziamo molto. Ti ringraziamo molto perché il commento non è, insomma, molto strutturato, però insomma, almeno è un commento. Poi c'è anche un altro su Google Plus di William Shatner che ci insulta ubriaco. Quindi comunque ci insulta. Vabbè, non ci sono altri commenti. Però mi pare che c'era qualcosa su iTunes. No, quella è archeologia videoludica. Vabbè, allora, io... Simone Pizzi muori. Era una cosa sì. Se non ci fossi io, ragazzi, l'ho tirato fuori dal fango. Vabbè. Io sono così bene in strada a prostituirmi. con il tuo amico Sboromir. Sì. No, il mio nome è Dart. Va bene. Allora, ragazzi, questa è la puntata di Natale. Io direi a questo punto facciamo un giretto. Nel senso, io vi passo la parola a rotazione a tutti quanti per fare gli auguri ai nostri ascoltatori, magari pubblicizzare anche i vostri blog. E insomma, vabbè, fare il nostro saluto perché poi insomma ci rivediamo nel 2013. Partiamo chiaramente dal Maglia permettendo, ovviamente. Maglia permettendo, vabbè. Certo, è chiaro. No? C'è quella cosa del Maccio Capatò, dai, i Maglia dicono c'è la fine del mondo, ma pure gli Aztechi. Pure loro, ma pure dicevano che non era, insomma. Quindi chissà se questa puntata esce, perché è vero, vabbè, se la fai uscire prima del 21 può essere. Noi intanto l'abbiamo registrata. E qualcuno per sicurezza, tra qualche migliaio di anni, qualche archeologo alieno potrebbe anche tirerà provare fuori la registrazione. Guarda questi che cazzo di che parlavano. L'ascolterà e poi la rimetterà sotto terra. Esatto. E lascerà il pianeta. Vedete, abbiamo trovato un ritrovamento di un simposio, di un dibattito culturale della razza umana di allora, insomma. Quindi vabbè, Luigi, visibilmente poco evoluti. Basta, silenzio. Luigi. Sì, dunque, innanzitutto volevo fare una piccola cosa. Abbiamo registrato questa puntata il 12 dicembre 2012. Azzo, 12-12-12. E non è manco caduto una volta la linea. Davvero? Però ci abbiamo avuto il problema con la SD. Ah, giusto. Allora, io facciamo prima una... Visto che si parla di 21 dicembre, si parla di fine del mondo, questa puntata probabilmente uscirà prima della fine del mondo. Il 12-12-12 è un giorno in cui si conclude il ciclo 12. Sì, per le riflessioni esoteriche si aprono portali di energia il 12° del nuovo millennio, che è iniziato col portale nel 111, che termina esattamente 9 giorni prima dell'inizio ufficiale della nuova era, che secondo il calendario Maya comincia il 21 dicembre 2012. Quindi la fine del mondo semplicemente l'apertura di una nuova era. Oh. Il numero 12 è considerato il più sacro tra i numeri, perché quello è il numero 12 che è 1 più 2 uguale 3, ed è la moltiplicazione di 3 per 4. Il 12 quindi indica la ricomposizione della totalità originale, la discesa di terra in un modello cosmico di pienezza e armonia. Ma la cosa più interessante del 12, ragazzi, è che 12 è il numero di paia di nervi cranici, 12 è il numero di vertebre toraciche, numero di pelle e costole, 12 sono i mesi con le lunazioni complete, 12 sono i segni del zodiaco, un giorno dice il 12, 12 anni è circa il tempo che impiega il giorno per compiere lo zodiaco. Nella mitologia greca, i due principali del Monte Olimpo sono 12, 12 sono gli apostoli, nella trocchia 12esima lama è rappresentata dall'appeso che porta il significato dell'uomo che si sottopone materialmente al processo di iniziazione e via dicendo. Quindi, il cazzo è il 21 dicembre, ragazzi. A me sono cresciuto 12 palle in questo momento, è una cosa incredibile. Oggi è stato... Però facciamo conto di aver registrato tutto nel 12, nel tempo. E veramente da 15 minuti siamo al 10. Una data irripetibile. Quindi vi faccio gli auguri a questo giro, quindi faccio gli auguri di una buona era, quindi un buon principio, sia vabbè, per il Natale, un giorno vabbè, importante, religioso e altro, ma visto che ci sentiamo per l'anno prossimo, lo faccio anche per l'anno prossimo. Nuove aperture energetiche e spirituali, una nuova vita un po' più consapevole, e speriamo che i pezzi di merda che sono, diciamo, dappertutto nel mondo, non solo a livello politico, anche che ci sta a fianco molte volte. Quindi voi che siete lì a Roma, guardatevi bene negli occhi. Ci guardiamo, abbiamo un sacco di pezzi di merda. Cazzo, perché a Roma ci sono più pezzi di merda delle altre volte? Perché c'è il raduno lì ogni giorno. Raduno dei pezzi di merda. Voi potete almeno guardarlo in faccia, c'è qualcuno, invece io stai. Diciamo, no. E poi faccio gli auguri, insomma, anche a chi deciderà nel 2013 di partire e di uscire fuori d'Italia, come in questo caso ha fatto Stefano, che noi scherziamo e ridiamo, però non sono passi che dovremmo fare, abbandonare il proprio paese, che si trova di lasciarlo. Quindi mi auguro, insomma, che il 2013 sia anche un anno che in qualche modo ci possa portare fortuna nel restare tutti quanti uniti qui nel nostro paese e nel scoprendo tutto qui. Beh, Stefano? Dopo quello che ha detto Luigi, sì, no, infatti, beh, siamo annichiliti. Ciao, tanti auguri ragazzi, ciao. A parte che Luigi non ha detto il suo blog. Non è, lo aggiorno una volta ogni 6 mesi. Vabbè, su Outcast però li troviamo, insomma. Come? Su Outcast ti troviamo, insomma, almeno come contatti. Sì. Ma su Outcast nel senso intendi il podcast, no? Sì. Ah, sì, vabbè. Certo. Sto là. Il mio blog si chiama Electronic Self, sta su blogspot.com. Electronic Self, Electronic Self. Però, insomma, ragazzi, se mettete Luigi Marrone, penso blog o Electronic Self sul motore di ricerca, esce già, perché il nome è così improponibile. Esce sì. Quello e poi anche i blog non ufficiali dedicati a Luigi Marrone. C'è la pagina, c'è la pagina del fan club. Non dimentichiamo la pagina. È vero. Chi è che la gestisce? Morgan. Io. Morgan non gestisce. No, la gestisce Simone. Vero. Infatti c'è trovate Luigi anche su Retrocast, tra parentesi. Sì. Giusto per... Sono un po' dappertutto, insomma, il padre Pio. Vabbè, quindi Stefano, il tuo messaggio d'augurio Luigi dell'augurio in generale per la nuova era. Mi auguro che il 2013 vada meglio del 2012, che sicuramente per me è stato un anno di cambiamenti, questo è indubbio. Sia fisici di locazione, ma anche di lavoro, molteplici lavori rivelatisi. Una mutazione, perché i cambiamenti fisici, che vuol dire? Fisici nel senso che il mio corpo fisico si è spostato da un punto a un altro del globo. Ah, eh sì. Saranno 700 km di distanza, dai. Insomma, da Cagliari al nord della Svizzera, cioè, la terraferma è arrivato. Sì, esatto, cioè io ero abituato a vedere il mare, adesso vedo un lago. Cioè, cosa mi rappresenta? Comunque, che è sto parte... buco d'acqua, sta pozzanghera qua. Pozzanghera. Con una conclusione, non ha senso. Ero abituato a vedere la linea dell'orizzonte, quindi insomma, è particolare. Quindi mi auguro appunto che sia, che porti cambiamenti positivi soprattutto per tutti e soprattutto tanti dei videogiochi piacevoli, magari qualche cambiamento anche nel mondo dei videogiochi, qualcosa che sia una, come dire, un colpo al cuore in senso buono, cioè un qualcosa che esce e tu rimani di stucco, dici cacchio, ma l'hanno davvero realizzato, qualunque cosa sia, non mi interessa se è la next gen, non mi interessa se è un videogioco, qualcosa che comunque sia di rottura con il passato, tra virgolette, e non che ci sia niente di male sul passato, considerando che faccio un podcast al riguardo, però che per quanto riguarda l'epoca moderna sia nuovo e piacevole. E niente, tutto qui, ringrazio insomma tutti gli ascoltatori e anche voi ovviamente per tutto in generale, per quest'anno che abbiamo passato assieme comunque. E basta, tutto qua. I riferimenti? Ah, i riferimenti lo rinomino, mi trovate su Retrocast assieme a Vittorio, al piccolo Vittorio e al piccolo Luigi Marrone, e quindi su, cercando Facebook e Twitter Retrocast o retrocastpod.wordpress.com. saluto anche Michele e Marco, a sproposito, e anche questo di Trilogia Videoludica, scritto, audio, un po' dappertutto, e ogni tanto anche randomicamente su altri podcast, quando non hanno più nessuno da invitare, chiamo. No, come no? Quando non hai più nessuno, quando non abbiamo più nessuno da invitare? No, non avete più nessuno. Ma no, a me manco mi invitano proprio. No, so qualcosa, stai registrando l'ultima linea. Via tu, faccio dello splendido, ho da fare. L'uomo di mondo. Comunque, Simone Cognome, visto che mi stavi parlando, tu? Io, a me mi trovate. Aspetta, seguiamo. No, prima l'augurio, comunque al limite, se proprio. Vabbè, però seguiamo il giro per la missione. Va bene, ok. Dai, poi dopo. Ah, ok. Vai. Allora, vabbè, il mio augurio è fondamentalmente: giocate, però approcciandovi come se foste tornati bambini, quindi giocate per la prima volta, ma soprattutto, quindi giocate meglio, e soprattutto non importa se giocate o meno, ma passate comunque il tempo assieme alla gente che vi vuole bene e con cui insomma, che vale davvero per voi. Non estraniatevi solamente. Non importa poi se magari riuscite anche a farla partecipare al gioco, tanto meglio, ma soprattutto state con gli altri. Non estraniatevi. E come, diciamo, l'unica speranza è che, come ha detto Stefano, che il 2013 porti tante nuove idee, indipendentemente si tratti di hardware o software, e quindi tante persone che abbiano il coraggio di osare e non guardare semplicemente al mero guadagno. Mi trovate su vitaingioco.tumblr.com. Io invece faccio tanti auguri di buon Natale, buon aprile e buon principio. Speriamo che questo anno di merda sia non vorrei dire l'ultimo anno di merda, perché è capace che poi moriamo tutti quanti per davvero, cioè ci prendono sul serio con l'apocalisse zombie, Qui no, perché se dice speriamo che questo anno di crisi sia l'ultimo, però è brutto perché lì ti prendono in parola. Quindi speriamo che, diciamo così, speriamo che il 2012 sia una bella ripresa, 2013 sia una bella ripresa, perché l'ho saltato, sì. 2012 non esiste, non esiste. Speriamo che sia una bella ripresa, che come siamo costretti alla speranza, speriamo che ci siano bei giochi, speriamo che ci siano belle situazioni. che fra un anno ci si possa rincontrare qui, ricordare il 2012 e dire: ah, ma ti ricordi quell'anno, che anno di merda? Per fortuna che quest'anno, esatto, non lo è. Speriamo, vediamo un po'. Ah, sì, non ho riferimenti, se mi volete cercare sono nell'aria, sono nell'etere, ah, sono su Facebook, potete cercare come Il Distruggitore, invece su Google Plus, tanto siamo in due, siamo io e William Shatner. Quindi trovarmi è facile, potrete cercarmi per nome e cognome, potete insultare me e anche William Shatner tranquillamente, tanto lui non capisce, è ubriaco. Bene, io sono Simone, cognome Andreozzi, e questo lo sapevamo, sei stato qua fino adesso. È un problema. Sono abituato con Free Playing, scusate, sono abituato con Free Playing che si saluta. Io sono stato, io ero, vabbè. Io fui. E l'augurio me l'hai un po'... non rubato, però mi hai rubato le parole di bocca, ecco, diciamo. E auguro sì che quest'anno finisca più presto possibile per vicende esterne, cioè per vicende... Stai sempre attento a quello che dici. No, l'anno che si arrivi al 31 dicembre, che si arrivi al nuovo anno, ecco, pensiamo positivi, propositivi. Allora, speriamo che il 2013 si sbrighi ad arrivare. Poi li prendono sul serio. No, ma infatti no. Speriamo che il 2013 si sbrighi ad arrivare, così ci togliamo dalle palle questo 12 che è stato brutto, almeno anche a mio modo di vedere. E riguardo i giochi, non saprei che dire. Giocate, cercate qualcosa che non... uscite dalla zona comfort, nei giochi, nella vita e nelle esperienze. Poi il resto, secondo me, arriva da solo. E i riferimenti miei sono voglio diventare grande.blogspot.com. Mi trovate su TheIndieShelter.com, su Dietrologia Videoludica. E poi vabbè, i progetti VPN quando usciranno saranno... Se vi perdete qualche cosa, tanto la rimette su Dietrologia Videoludica, no. Quindi tranquilli. Tranquilli, non vi perdete niente. Andate su Dietrologia Videoludica e trovate tutto, quindi... Oh merda. Allora, questo è il terzo Natale da quando ho iniziato a fare podcast. E il terzo Natale che ha visto svilupparsi, insomma, tutta una serie di cose. A me il podcast, in particolare IPN, ha portato l'opportunità non soltanto di fare cose che comunque mi divertono, mi piacciono, però mi hanno portato delle conoscenze, no? Quindi nuovi amici, nuove persone con cui interagire, avere comunque delle relazioni che alla fine vanno anche oltre, no? Le passioni, che possono essere il videogioco, il cinema o qualsiasi altra cosa, perché poi alla fine si diventa, si interagisce in maniera sempre più approfondita, si diventa anche amici, quindi è comunque bello questo. E per il 2013 mi piacerebbe che anche questo continuasse a svilupparsi, diciamo, la panza piena di acqua, ho bevuto una cifra, e questo è il mio augurio per il Natale, per il prossimo anno, ossia quello di interagire e costruire sempre di più dei legami, sempre più interessanti, sempre più stimolanti, essere curiosi, questa è la cosa importante. Come dice Peppe, comunque non bisogna neanche nascondersi dietro lo schermo, cominciamo ad interagire con le persone che per noi hanno valore o che possono piano piano avere valore. Questa, insomma, è la cosa che molti non hanno capito, ma il valore più grande che ha portato Italian Podcast Network nella vita mia e nella vita di tante altre persone, perché si sono poi veramente creati nello stimolo di fare un progetto comune, si sono comunque create delle amicizie, e questa è la cosa bella. E questo, vabbè, non c'ho nient'altro da dire. Poi i miei riferimenti, a differenza di Maio, io sono la luce e lui è il buio, cioè lui non esiste, io sono ovunque, quindi nel senso che i miei riferimenti è pure difficile, insomma, dirli, perché tanto basta che mi cercate, mi trovate sicuramente, vabbè, diciamo Italian Podcast Network, esatto, in generale. Sì, esatto. Quindi buon Natale a tutti ragazzi, buon anno per il prossimo anno, buon fine anno se passate, insomma comunque un buon capodanno insieme a chi cazzo lo passate, basta che lo passate e vi divertite. Vi salutiamo con Dietrologia Videoludica, www.dietrologiavideoludica.it, chiaramente il nostro sito, dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail, Dietrologia Videoludo è il nostro Twitter, la pagina Facebook è, visto Stefano, piano piano non lo so imparato, la pagina Facebook chiaramente è Dietrologia Videoludica, veniteci a vedere. Dobbiamo venite... arrivare a 100 like entro la fine dell'anno, eh? Sì, siamo un po' scarsini, siamo un po' scarsini, mentre che Archeologia Videoludica è decollata negli ultimi tempi, qui con DVL siamo ancora un po' scarsini, veniteci a trovare, fate mi piace e soprattutto insomma non vi dimenticate di guardare anche il blog, che ci sono magari alcuni articolini che sono particolarmente interessanti. Per questo episodio è tutto, ci vediamo il prossimo anno, ciao a tutti, ciao GG Agro Smerda.